Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Una notizia, caro Parenzo, e mi viene lo sconforto. Perché mi viene lo sconforto? Perché ci sono alcuni comuni in Italia che pensano di raggranellare quattro soldi multando i clienti delle prostitute. Succede purtroppo in paesi, in paesotti, in cittadine, dove ci sono sindaci anche rispettabili come l'ex portavoce di Napolitano Pasquale Cascella a Barletta, che impone multe di 500 euro. Pensate un po', 500 euro quando uno si avvicina a una prostituta perché intralcia il traffico, provoca scompiglio sul territorio. Ma di che parliamo? Diciamo la verità, queste cose qui non sono fatte per l'ordine pubblico, non sono fatte per, come dire, per evitare di far vedere ai bambini brutte scene, sono fatte per pigliare qualche quattrino a quelli che vanno a prostitute, vanno legittimamente a prostitute. Il sindaco di Gioia del Colle, sempre ingiungibile. Il sindaco di Gioia del Colle, sì, caro Parenzo, ha vietato anche i ma gesti. Ma le sembra un'apertura questa cosa? Sì, sì, sì, io sono. Cioè, voglio dire, hanno preso i due killer vasi, stanno rompendo le scatole, il decreto, buttate fuori i criminali, e poi cosa c'è? E poi c'è l'economia, e l'Etta, e l'Ilva, e le prostitute nei piccoli paesini, le multe dei sindaci. Certo, certo, certo, certo. Che bisogna non fare una battaglia. Seri per niente. No, non siamo seri. E siamo incazzati anche neri per questa cosa qui, perché non è possibile multare i clienti delle prostitute né a Gioia del Colle né a Barletta. Vabbè. Pensa quanto se la sarebbero passata male un po' di persone. Cioè, la cattura di Gagliano ha salvato il culo a un sacco di gente. Tirano un sospiro di sollievo tutti, dalla cancellieri in giù. Beh, qualcuno comunque. Pensa se avesse ammazzato qualcuno, sarebbero caduti tutti, dal primo all'ultimo. Qualcuno pagherà comunque il giudice di sorveglianza. Ma che pagherà? Pagherà nessuno. Il direttore del carcere, no, qualche spiegazione no. La daranno. Resta un fatto: cosa bisogna fare per rimanere in galera oggi? Oltre a omicidi, evasioni, rapine, eccetera. Sono 63.000 detenuti in Italia. Non dica questo. Allora, i premi dicono alcuni sono un segno di civiltà. Sì, beh, ma certo. Quando uno si comporta bene, però. Ma cioè, è chiaro che. Quando uno si comporta bene, ma non è quando difficile tenta. Averli, non quando tenta l'evasione 400 volte. Dai, su, ma dai, chi è dato dai. Ah, questo qua era un evaso, un plurievasore, non fiscale, dalle carceri. Dalle carceri. Dai. Oh, Alfano ne ha detta una giusta, eh. È contrarissimo al numero sui caschi della polizia, al numero identificativo. Capirai. Dal mio punto di vista ne ha detta una giusta, Alfano. Io sono quanto più contrario non si possa essere, ma proprio contrarissimo. Contraddice esattamente tutte le regole che presiedono alla sicurezza non solo del paese ma dei singoli agenti. No, Ne ha detta una giusta stavolta. Non si può mettere il numero identificativo sul casco della polizia, altrimenti va a finire a bordello. Dai, va a finire a bordello. Il numero, non il ma nome. Ma non va uguale. Il numero, la come la cosa. Targa delle macchine. È la stessa cosa. Infatti dalla targa si arriva al nome dell'intestatario poi. Beh, è un po' diverso però, non è che tu dal se numero... Se ci sono cose che non vanno, gente... vanno puniti i responsabili, punto e basta. Ma non è che poi chiami in questura e dici sono stato malmenato dalle gente 457532. No. Non è e che come ti no. danno... Mai. Ah, perché se telefoni diventa ti danno... una caccia al poliziotto, ti danno... ti danno il nome del poliziotto se chiami alla questura, secondo c'entra? Te? Ma come allora, ragionate parla, tu e Alfano? Più parla, più parla. Senti, il fatto stesso che mi accosti Alfano già mi dà fastidio. Già ho dovuto fare uno sforzo perché, per dire che ha ragione su questa cosa. Però io non guardo in faccia a nessuno, sono d'accordo, no, punto certo. e basta. La Boldrini più parla e più mi mette, come dire, e più mi fa venire un nervoso pazzesco su questa storia del volo per la Sudafrica, eh. Le immagini di Lampedusa sono molto peggio dell'arretramento del PIL. Ma che dici, Boldrini? Cosa dici, Boldrini? Cosa? Cosa peggio dell'arretramento del PIL? Cosa? Quell'immagine che da tre giorni l'Europa intera e tutto il Mediterraneo conoscono sono la testimonianza, lasciatemelo dire, di qualcosa di inaccettabile che colpisce l'onore del nostro paese. E io lo considero molto peggio di un arretramento del PIL. Allora, cara Boldrini, innanzitutto forse non ti sei accorta in tutti gli anni in cui eri ai rifugiati che questi subivano delle disinfestazioni, chiamiamole così, o continuo a chiamarle così, di questo tipo. Cosa che è perfettamente legale. Non c'è nulla di illegale. Questi responsabili del centro sono stati utilizzati come capro espiatorio. Non è successo nulla di particolare, niente, nulla. Le modalità vengono criticate. Ah, dai, su, attento, dai. Attento. Le buon modalità. Anno, ieri sera la zanzara contro la Littizzetto. Vado a Lampedusa a lavare i magrebini, a lavare le palle ai magrebini, perché fa la pubblicità alla Coppa e i centri, alcuni centri sono gestiti dalle COP. La Littizzetto, visto che parla tanto, dovrebbe parlare su che tempo che fa di queste cose delle COP rosse, se non era contenta, altrimenti prende anche lei Lampedusa e vede come funziona a far passare a tunisini, magrebini, eccetera, eccetera, 500 alla volta, si mette lì a pulirli uno alla volta anche lei con le sue manine dorate, perché così capisce. Ma sentite questo signore, si chiama Giorgio Assenza, è un consigliere regionale di Forza Italia in Sicilia, il quale dice 11.000 lordi al mese, lordi non è spropositato come stipendio, senti. E quando io mi ritrovo il mio, stavo a dire bel faccione, dico solo faccione perché bello forse è inappropriato. In un sito del movimento in cui mi si paragona con un altro deputato, guarda caso del movimento, che dice bontà sua di percepire 2.500 euro mensile, a me mi si mette accanto 11.000 con la frase che io dico e ribadisco da questo microfono, che non ritengo affatto spropositato per un deputato un'indennità di 11.100 euro. Lo dico e lo riaffermo. All'Assemblea regionale siciliana non vengo in autobus e non mangio il panino. Perché caro Presidente, ognuno ha la sua dignità e non mi si può dire che devo venire qui con l'autobus, perché non ho il tempo neanche di prendere l'autobus. Poi le aste siciliane, avremmo voglia di venire da Ragusa con l'autobus o con la littorina. O non mi si può dire che io mi devo mangiare il panino. Me lo mangio quando è il caso, ma se non è il caso io vado al ristorante e lo pago con i miei soldi, così come faccio quando vado in trasferta per il consiglio dell'ordine. Uno può andarci anche con l'autobus al consiglio regionale. Non me si dica che vado con l'autobus da Ragusa, perché non arriva da Ragusa a Palermo. Amico mio, se non arriva sono anche cazzi con problema tuo, perché sei un politico e non hai fatto un cazzo perché l'autobus da Ragusa arrivasse a Palermo come tutti i lavoratori del mondo. E non me vengo con l'autobus da Ragusa a Palermo perché l'autobus non arriva. Ma come non arriva? Come non arriva? Colpa tua se non arriva! Capra! E Pasolini! Capra! Capra! A Pompei! Hanno distrutto tutto, Piazza Armerina! Capra! Ma che c'entra questo? Sgarbi, Sgarbi si impossessa di me. Ecco noi Carlo Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Come andiamo, senatore Nuovo Centrodestra? Bene, grazie, sono a Firenze, bellissima città. Beh, questo non c'è dubbio. Cosa fa a Firenze? Da Renzi è andato, bravo. No, non è andato da Renzi, non credo che abbia in simpatia il sindaco di Firenze, signor Giovanardi. No, sono in una riunione del Nuovo Centrodestra. Ah, beh, fate pure le riunioni al Nuovo Centrodestra, Giovanardi? Firenze. Assolutamente. Scusi un attimo, Giovanardi, con le immagini di Lampedusa, torniamo su questo, su questa roba qui. Secondo lei sono davvero uno scandalo o no? Secondo me no, però me lo dica chiaramente, senza infingimenti, senza... Secondo me sono un caso eclatante di autolesionismo nazionale. Io ieri quando ho visto queste immagini, essendo stato in collegio, avendo fatto il militare, devo dire che non mi hanno affatto meravigliato. Che cosa ho fatto? Tre cose. Che nessuno della stampa italiana, forse salvo voi, ha rilevato. Primo, avendo letto freddo gelo, sono andato a vedere la temperatura di Lampedusa, 18 gradi. Ieri, due giorni fa c'erano 18 gradi. Tenete conto che a 20 gradi non si può accendere il riscaldamento in casa, perché a 20 gradi è una temperatura gradevole, no? Poi sono andato a vedere e mi sono informato sui casi di scabbia che sono avvenuti nei mesi precedenti, purtroppo a decine. Quindi è indispensabile intervenire con una profilassi per la sicurezza degli immigrati, di quelli che arrivano, e anche di quelli che non si prendono la scabbia. Gli immigrati potevano tranquillamente stare all'aperto perché c'erano 18 gradi, dice lei. E questo è un dato di fatto, 18 gradi. Anche quando ho letto gelo, freddo, 18 gradi. Poi il fatto che la profilassi è indispensabile, e nudi, nudi, io ho cercato anche, ho parlato con medici, la profilassi... È obbligatorio essere nudi. Allora io dico, c'è nessun crimine, nessun crimine. Se vuoi parlare di sciatteria, di disorganizzazione, di un episodio spiacevole, del fatto che magari due o tre in fila si sono spogliati prima del tempo, posso essere d'accordo, ma anche in tutto il mondo noi passiamo per essere degli aguzzini da campo di concentramento tedesco, da lager, e trattate nel servizio, trattate come le bestie, come gli animali, perché gli intervistati dicono trattate come gli animali, e viene ripetuto trattate come gli animali, quindi che in tutto il mondo noi abbiamo dato questa immagine rispetto a lei rifiuta situazione. Questa roba qua no, secondo me è autolesionismo, perché per due ragioni. Aspetti un attimo Giovanardi, Parenzo, come rispondi? L'Europa, non è che devo rispondere io, semplicemente con una notizia. Il fatto che l'Europa ha segnalato e ha preso quel video a testimonianza del fatto che i diritti umani non sono stati rispettati, comunque non mi interessa. Allora no, ma io, Giovanardi, scusi, visto che difende quelle pratiche, Giovanardi, visto che difende quelle pratiche, un attimo, visto che Giovanardi difende l'onorevole Giovanni, difende quelle pratiche, da domani deve farsi la doccia in piazza a Modena nudo. Ma mica un immigrato, visto che se ci sono 10 gradi a Modena nudo fa la doccia, e poi come faceva in caserma una volta. Lo sa che la doccia la faceva nuda e con l'acqua fredda, e la faccia, quindi, la faccia nel suo giardino di casa nudo, mica bisogno di la faccia lì, se non è umiliante per lei si faccia la doccia lì. Allora scusi, allora torniamo a dire, sarebbe stato veramente un trattamento inumano se persone che possono avere delle malattie, invece di curare queste malattie, si facesse finta di niente e si lasciassero andare in giro con queste malattie contagiose. Ma chi ha detto questo? La prima cosa da fare è di tutelare quelle persone che arrivano in quelle condizioni, tutelare la loro salute. Ma lei i pidocchi l'ha mai avuto? Allora, o no? Lei i pidocchi l'ha mai avuti? No, ha mai avuto i pidocchi, Giovanardi? No, ma che c'entra? Neanche lei mai ha avuto i pidocchi? Ma all'asilo i pidocchi l'avrà avuti, no? Io non l'ho avuto, ma ci sono stati tanti casi. Bravo, allora non è che prendevano i bambini e li mettevano nudi a fare la doccia, no? Allora mi scusi, torno a dire e ribadisco, se è un caso che dice di disorganizzazione, di sciatteria, ok, ma no, è stato detto una cosa diversa. Sì, che è un lager, che quella roba lì è un lager. Allora, chi parla di lager e di trattamento inumano? Chi sono? I immigrati organizzati, associazioni di immigrati, sono loro che dettano legge? Un piccolo particolare, che il problema dell'immigrazione, che è già difficile, diventerà ingestibile se passa l'idea che qualsiasi immagine, qualsiasi carenza, perché ci vogliono anche soldi, disponibilità, ma su questa ragione Giovanardi, diciamo la verità. Ma chi ha ragione? Diventa una roba ingestibile, perché si grida non al discorso di dire possiamo migliorare, si può fare meglio, no, passa l'idea che noi, le persone, è proprio quello. Un attimo solo, che c'è il traffico. Qualcuno mi deve spiegare. La Boldrini dice che è peggio del PIL, peggio dell'arretramento del PIL. Ha sentito la Boldrini? Sì, traffico. Io ho visto queste immagini. Allora, ho visto che ci sono 60 persone a spasso a casa. Oggi la dottoressa che piangeva disperata dicendo sono venuto lì da un giorno. Io non sono una Agostina, non sono un capo. Cioè hanno perso il lavoro 60 persone, dice lei, quelle della cooperativa. Che sono. E diceva non sono un mostro, piangeva disperatamente. Poi non so se i due che si vedono lì si sono spogliati prima perché avevano fretta, che non avevano fretta, ma c'erano state torture. No, abbiamo non pare. Visto trattamenti inumani. Un attimo visto... solo che c'è il traffico, torno subito. Le zanzare di casa, scusate se vi ho disturbati, si nutrono di me quando il giorno scivola via. Perché nessuno si incazza, caro Parenzo, per una cosa molto semplice che leggiamo oggi su un giornale di Napoli che si chiama Il Mattino. Il Mattino, uno dei più grandi giornali del sud, no? Il Mattino. Cioè il fatto che al comune di Napoli sono concessi una marea di permessi sindacali nei giorni di festa. Mi adorano perché abbandono. C'è un record di richieste dei delegati sindacali, che sono una marea, sono tantissimi. Proprio nei giorni di festa, quando non ci sono assemblee sindacali per decidere cose fondamentali, sì, no? A Napoli, sì, ci sono 9600 dipendenti. Il sindaco cosa dice? Uno su cinque è delegato sindacale. 4.500 iscritti al sindacato, 30% i delegati, una vergogna, una vergogna. È per questo che è un paese irrecuperabile. Non si può riformare questa roba qua, è irriformabile. Speriamo che Renzi non cali le braghe con la CGIL e con i sindacati sui permessi, perché li vuole tagliare tutti. Speriamo non cali le braghe come, vabbè, al solito. Cosa, ecco, vede il solito eccesso su tagliare, no, tutto i permessi sindacali, tagliare, ecco qua. Congelare, c'è poi un vediamo. Diritto che è un diritto che poi può diventare un abuso, come lei giustamente vuole, mi sottolinea. Vuole tagliarli del 90%. Vuole tagliarli del 90%. Via, tagliare tutto, tutti i permessi sindacali. Improvvisamente la storia dei lavoratori italiani, statuto dei diritti dei lavoratori, calmo. Via, arriva lui, Cruciani, boom, macete. Cruciani, oh, lo sai, altrimenti che... detto macete. Lo sai che in Uganda hanno dato l'ergastolo. Dove è finito Giovanardi? È andato a fare la doccia nudo da qualche parte? Ma perché Giovanardi? Vuoi far fare a Giovanardi perché deve fare la doccia nudo? Perché deve fare la doccia nudo con un immigrante. Ma non è un immigrato che ha bisogno deve di disinfestazione fare, visto che non è umiliante, deve fare la doccia nudo a Modena, dico, allora, nella piazza, scusi, di Modena, nudo, nudo. Scusate, io ho fatto dello sport, ho sempre fatto la doccia nuda insieme a tutti i compagni di squadra, tutte le persone che facevano, ma i compagni di scuola. Cosa. Ma detto questo, certo, vi voglio solo ricordare una cosa, poi vado, che capisco doccia, che tutto è relativo perché le cose si evolvono giustamente e in meglio, però ricordo che Guareschi, quello che di, sì, Don Cabillo, no? Negli, sì, anni 50, nel 55-56, sì, scriveva libri seri, sì, contro quegli sporcaccioni di città che fanno i loro bisogni in casa. Dunque? Ma dunque diceva, le persone serie non possono fare i loro bisogni dentro, devono andare fuori all'aperto. Dunque? Devono avere, perché, no, ma per dire come. Meglio anche stare la percezione... all'aperto, dice lei, meglio stare all'aperto. No, dico che Guareschi. Lei non può citare Guareschi a caso. Lei dice cito, alcune cose si fanno all'aperto. Lo do la dimensione del fenomeno che non è, ripeto, né un lager nazista, né torture, quindi l'immagine dell'Italia rimbalzata nel mondo. Questo come è vero. Un po' di... è una cosa si che a me fa male, delle docce perché là quell'episodio, dentro, ripeto, sarà sciatteria, sarà disorganizzazione. Appunto, sarà. Ma che disorganizzazione? Sono le cose che si facevano da anni, non c'è nessuna disorganizzazione. È che mancano, è che le, si alcune devono cose. Fare le docce come a casa di Giovanardi. Punto. A casa di Giovanardi c'è, ma la doccia, scusi, ma no, anche lì va fatta a casa la doccia. Di Giovanardi, se arrivassero 50 o 60 persone improvvisamente e avessero bisogno di una profilassi, ma arrivassero come arrivano lì, mica lo fa dentro centinaia, casa. Farei ma fatica a fare ne. Ma il suo non è un centro di accoglienza, è una casa, chiuso, no? Non si può fare al chiuso, perché la disinfestazione è fatta al chiuso. È vero, hai ragione. E quindi che cosa facciamo? Dovrei andare a, no, trovare un fare. Capannone a Modena, una struttura, se ci fossero 400-500 vale, persone, e il comune lo farebbe dentro quella struttura. Scusi un attimo, ma passando ad un altro argomento, ma lei lo sa che il Papa è diventato l'icona della principale rivista omosessuale al mondo che si chiama The Advocate? Ha visto Papa Francesco come una, sì, specie ho di... ho visto, ma secondo me equivocano e daranno delle grandi delusioni. Perché? Ah, perché dice che col cavolo che darà, che sarà, che è favorevole al matrimonio omosessuale. Ma l'ha detto un milione di volte, quando era cardinale l'ho ripetuto anche adesso, ma... Che il, ma anch'io penso che ogni uomo sia mio fratello e quindi ci mangiamo altro, che sì, gli omosessuali, donne e femmine, non siano persone rispettabilissime. Sì. Ma in Uganda, intanto in Uganda hanno dato l'ergastolo oggi, Però bisogna combattere dove c'è veramente, o in India, dove c'è veramente la discriminazione. Perché non va in Uganda? Perché non fa una cosa contro l'Uganda? Ma però è l'arcigay che dovrebbe andare in Uganda invece di farmi qua il reato d'opinione se io penso che i bambini abbiano diritto a un padre e una madre. Sono loro che vogliono mettere in galera me. Ma Putin fa bene a non concedere l'adozione ai paesi che hanno le adozioni gay, secondo lei? Putin. Beh, sa che anche per la questione del Congo, con questo allarme che l'Europa ha, sì, lanciato del fatto del pericolo che i bambini possano andare, i paesi terzi stanno man mano chiudendo le Putin, adozioni. Dunque Putin fa bene a non concedere l'adozione a quei paesi che hanno le adozioni gay? No, ho detto che il risultato, no, fa bene di questa Putin roba o no, europea, Giovanni, se i russi pensano che i bambini abbiano diritto a un padre e una madre, fanno bene a vietare l'adozione ai paesi, certo, che ce l'hanno. Sono bambini loro, scusi, perché niente, non dovrebbero farlo, sono loro che decidono. Scusi, lo sa che è stato condannato a 6 anni un professore che aveva 270 piante di cannabis in casa? Lui dice che per fare delle sperimentazioni, delle cose, ma la vogliamo finire con questa cosa? L'Uruguay, ha visto il grande esempio dell'Uruguay, dove lo Stato diventa spacciatore? L'ex presidente Tupamaros che sta facendo un esperimento sulla pelle degli uruguayani con il 62% delle persone contrarie, e come spiegava un giornalista l'altro giorno a Lugano, solo per far cassa, perché il loro problema è fare cassa. Ma è importante fare cassa, però, non è? Sì, peglieranno uno e spenderanno 10 per curare poi gli effetti di questa devastante, non lo dico io, l'ho detto loro. Cioè, se lei dice che sarà devastante per gli uruguayani, saranno bagati in testa dalla droga, dice lei. No, dico io, basta. Se va a vedere, sì, nel mio sito ho messo le fotografie con le neuroscienze di una testa di un diciottenne che non ha fatto uso di cannabis, e quella con i buchi di un diciottenne che ha fatto uso di cannabis. Non è colpa mia. Vabbè, ma ci sono degli eccessi in tutte le cose, anche con l'alcol ci sono degli eccessi. Giovanardi, sono anche, certo, se uno... Infatti sono contrario, scusi, sono io che ho fatto le leggi più severe. Se non si fuma... Ma lei è un proibizionista proprio a tutto tondo. Se non si fuma nei bar, nei ristoranti, negli ospedali e negli uffici, dove dire grazie a circa Giovanardi. E non morire di tumore passivo, poter andare finalmente in un luogo pubblico senza qualcuno, non è la stessa cosa. Coi sigari, no, è la stessa cosa, perché anche il fumo lo stiamo riducendo. Comunque, Giovanardi, siccome dobbiamo chiudere, l'ultima cosa che voglio dire, piaccia o meno Renzi, lo ha detto lui, piaccia o meno a Giovanardi, faremo le unioni civili, Faremo. E allora, se sono i contratti di solidarietà, sono d'accordo anch'io, ho presentato un disegno di legge, ma mica solo per gli omosessuali. E se fosse una cosa tipo le unioni, tipo i PACS o cose di questo tipo? Bisogna prima cambiare la Costituzione. Ma si spaccherà il Partito Democratico? Beh, da quello che vedo in commissione e in aula avranno dei grossi problemi anche con una larga parte della loro base. Va bene! Io lo ripeto ancora una volta, il vero scandalo è quello che succede al comune di Napoli. Sarà anche un piccolo esempio, ma dà l'idea di un paese irrecuperabile. Non c'è niente da fare. Permessi sindacali a iosa, soprattutto nei giorni di festa, dove non si fanno riunioni sindacali. Viene permesso questo scempio da anni senza che si faccia nulla. I permessi sindacali sono pagati da noi con i soldi nostri, con i soldi che avete nelle tasche. È mai possibile che ci siano 2000 rappresentanti sindacali? Il 30% a Napoli, il 30% di quelli iscritti al sindacato, per non fare un cazzo. Dai, su. Ma neanche alla Fiat. Dai. Dai. Vabbè. Abbiamo già dato su questo, eh? Devo dire la verità, Parenzo, se... Però vedi, non è che l'abuso di un diritto fa togliere il diritto, insomma. È chiaro che qui c'è da fare, come direbbe Borghezio, molta chiarezza. Molta chiarezza. E anche però, molta pulizia. Molta. Però non è che qui bisogna mettere in discussione il diritto al permesso sindacale. Vabbè, ma è diventata una buffonata questa cosa. È evidente che sono, li prendono nelle feste, li prendono durante le feste per fare i ponti. E poi è roba pagata, capito? Pagata da noi. Comunque, passiamo ad un altro argomento. Berlusconi, che avrebbe ricevuto in dono a Panama delle prostitute panamensi dal signor La Vitola, il quale però avrebbe filmato gli incontri. Io non so se questa storia è vera, di Berlusconi alle prese con puttane panamensi a Panama, quando era in visita ufficiale, e con i video filmati dal signor La Vitola. Perché lì è un imprenditore che è interrogato, sì, dice, ha detto questo, che tutto del relato, assolutamente. Quindi, Però fosse vero che Berlusconi è andato a Panama, fateci vedere i filmini, fosse vero. Esatto. Io chiedo a Sallusti immediatamente di allegare da gennaio, come regalo per il 2014, a tutti i suoi lettori i filmini in DVD di questi incontri, diciamo. Fosse vero che si è fatto portare un po' di mignotte a Panama, beh, siamo al top, ragazzi. Cioè, uno va in visita ufficiale e poi gli portano un po' di puttane panamensi. Siamo al top. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Mm. Catturato in Francia il serial killer evaso dopo un permesso premio, preso anche il pentito di Camorra Esposito, la cancelliera, il sistema funziona. Legge di stabilità del Rio, presto un decreto per compensare i comuni delle detrazioni sulle tasse per la casa, il governo incassa la fiducia della Camera. Letta difende la manovra, se dico sì a tutti è bancarotta, chi si aspettava sfracelli tra me e Renzi resterà deluso, rimedieremo all'errore delle slot machine. Standard & Poor's boccia l'Europa, Bruxelles perde la tripla A, motivazione ufficiale, debolezza del credito e mancanza di coesione, Barroso, l'agenzia sbaglia, siamo credibili. Sondaggio del TG3, la maggioranza vuole una legge elettorale a doppio turno, con Renzi governo più debole ma sale il PD. Nuovo arresto per la Vitola, tentata estorsione ai danni di Impregilo, un teste avrebbe procurato prostitute a Berlusconi, Ghedini falso. Putin grazia all'ex oligarca Khodorkovsky, il magnate russo da 10 anni in carcere e già suo oppositore in politica, sarebbe stato scarcerato ad agosto ma oggi già si trova in Germania. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. E ancora a casa, ma peggio è. Beh, notizie che sconvolgono. Marcello Fiori, ex della Protezione Civile con qualche piccola pendenza ancora, ma lasciamo perdere. Marcello Fiori dice che non bisogna sottovalutare l'amore degli italiani per gli animali, perché sai qual è la notizia vera, no? Che Berlusconi vuole regalare un veterinario a tutti. Cioè, un veterinario per tutti. Prima era la dentiera, tanti cioè, anni fa. All'interno dei club Forza Silvio, Forza Dudu, quello che sarà Forza Silvio. Gli iscritti devono, come dire, no? Devono procurare ai cittadini un veterinario. Veterinario, sì. Mamma mia, signor Fiori, sentiamo. La zanzara è l'imprendibile insetto. Non sottovaluterei l'amore che hanno gli italiani per gli animali. Spesso in modo snobistico anche altri argomenti, soprattutto dalla sinistra, sono stati ignorati. Più della metà delle famiglie italiane ha un animale in casa, 8 milioni di cani, 12 milioni di gatti, e soprattutto questi animali hanno un ruolo affettivo molto importante nelle famiglie, a volte un ruolo sociale, un ruolo addirittura di aiuto con le persone con l'handicap. Quindi attenzione. Ma attenzione, che io a queste cose mi fanno impazzire, a me. Mi fanno incazzare, ma chi se ne frega? Ma è una cosa che già sappiamo, il ruolo degli animali, ma chi se ne fotte degli animali in casa? Perché deve diventare un tema di politica nazionale? Attenzione, dice il signor Fiori, attenzione al ruolo degli animali in casa. Ma Parenzo, per favore, aiutami, no, tu ma in questa cosa, aiutami. L'amico Fiori, che a un certo punto il passaggio agghiacciante, come dice, perché si sa la sinistra il disprezzo che ha per gli animali. No, non ha detto questo, ha detto beh, questo. No, beh, ma no, senti il pezzo sulla sinistra. No, ha detto che la sinistra non cosa. Ha fa ignorato. Ma che cosa ha ignorato? Gli animali, la sinistra? Ma perché? Cosa vuol dire che ha ignorato gli animali, la sinistra? Merita una riflessione questo. Ma non merita una riflessione, cara Boldrini. Non merita un cazzo di riflessione. Hai saputo che la sinistra prende a calci i sedere animali. Ma non è vero, Sallusti, non è vero. Abbiamo scritto mille volte inchieste. Vabbè, comunque io voglio risentire Buonanno, solo con Buonanno mi sento meglio. Mi sento meglio solo sentendo Buonanno. Sì, cioè, sì, sai sì. Che è proprio una brutta persona. Ma non è una brutta persona, ma assolutamente sì, no. Bisogna dirlo ma forte no, e chiaro. Ma è un grande uomo di spettacolo, innanzitutto. Poi, è un politico, però. Beh, vabbè, la politica è anche spettacolo, dai. Comunque dice che in questi centri, tipo Lampedusa, si facevano il bagno in mare tranquillamente come fossero in vacanza e mangiavano cose di prim'ordine. Cose di prim'ordine. Sì, queste persone che arrivano hanno, e lo ribadisco, gli indumenti nuovi e puliti, colazione, pranzo e cena, poi hanno la tessera telefonica internazionale, quindi telefonano ad altri che hanno il cellulare, quindi non sono dei disperati al massimo. In più gli danno anche le sigarette, queste cose non ce le hanno tanti italiani che hanno lavorato una vita, non ce le hanno questi servizi. Vabbè, vabbè, dai. Oh, il nostro mitologico Assenza, Giorgio Assenza, consigliere di Forza Italia, Regione Sicilia, quello che dice che non vuole andare in autobus alla regione, non vuole mangiare coi panini, Assenza. È 11.000 lordi, non è una cifra spropositata, su questo però posso anche essere d'accordo. Signor Assenza, dice che la rovina d'Italia sono i conduttori televisivi, immagino, che guadagnano milioni di euro. Ed è questa la rovina dell'Italia? No, la rovina dell'Italia sono quei conduttori, quelli sì, che percepiscono milioni l'anno di euro sfruttando la demagogia di questo parlando contro la classe politica e approfittando loro, soprattutto i conduttori delle TV nazionali, approfittando loro delle lauti con benzi tratti da soldi pubblici. Dipende, ci sono alcuni pagati dal pubblico, altri no. Insomma, è un straordinario. Beh, mitologico, assenza numero uno. Seguita, ti ho inseguita, ora sei qui fra le mie dita. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta per... Fammi parlare. È il capo dell'opposizione. E chi se ne frega? E mo perché sei il capo dell'opposizione, tu puoi parcheggiare sempre in sosta vietana. Poi arriva il vigile e ti fa... No, fammi finire. Poi se arriva il vigile e ti fa la multa, dici no, vaffanculo, il vigile è comunista. Ma vaffanculo, questa è una vita che parcheggiato cazzo io per lui, in mezzo alla strada, sopra il marciapiede, dentro casa dell'altro. Poi arriva il vigile e dice, il vigile è comunista. Ma vaffanculo, e paga le multe. Oppure parcheggiato... Dai, fatti, hai parcheggiato male, ma paghi la multa, non rompi più coglioni. Ma lei gira sempre intorno a me. Siamo qui, 800240024, Paolo Catania, buonasera Paolo. Pronto, buonasera, innanzitutto un cordiale vaffanculo a tutte quelle che credono a tante cazzate che vengono dette da politici. 11.000 euro per non fare niente, ma ci vuole proprio un coraggio minchione proprio. E questa è una cosa importante. Importantissima, certo, importantissima. L'Italia è un paese particolarmente... è proprio evoluto, nel senso che ci siamo evoluti in peggio, nel senso che noi abbiamo la cancellieri che fa tanto la tipa figa, quando lei immediatamente se dovrebbe andare, poi comincia a dire che quello deve andare via perché ha dato la libertà a un malvivente, un assassino. E qualche, certo, perché cioè non era, era preparato, sapeva. Ma non l'ha detto che doveva andare via, comunque. Ma lei è vero oppure è una finzione? Oppure è una macchietta? Ma chi? Lei sta recitando, caro Paolo? Lei. Io recito, sicuramente che recito la parte del solito Togliano Cocchione che crede sempre a queste cose, no? Ma mente, no? Sì, certo. Mi perdoni, ma è mai possibile che una persona che... io non è che sono tanto preparato, però sicuramente. I braccialetti elettronici e dà la libertà tranquillamente a persone perché lei è buona di cuore, tutte queste cose così, insomma, certo. Maurizio da Milano, non si capisce un cazzo, ma è uguale. Maurizio da Milano, tu vai. Sì, buonasera. Dica. Senta, io intervenivo in merito alla questione degli evasi dal carcere. Sì. Allora, dal mio punto di vista, quello che sta facendo è comunque un giornalismo di bassa lega, perché indipendentemente da come lei la pensi, perché poi io so che comunque lei un pochettino recita anche, perché bisogna ricordare... Io non recito per niente, comunque, vabbè, allora... Bisogna comunque, intendo dire che quando lei fa le provocazioni, le fa, però io non so se è solo una provocazione o è quello. Un attimo. È la zanzara capricciosa. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara. Ma vogliamo sentire la senatrice Castelli dei 5 Stelle? Oggi, senatrice Castelli, se non sbaglio, Laura Castelli, che dice che dobbiamo buttarli fuori a calci come fece Gesù. Piano, piano a scomodare certe cose, senatrice Castelli. E poi chi vuole buttare fuori? Io vorrei capire sempre, c'è un nome, un cognome? Uno vuole buttare fuori, così a caso, buttiamoli fuori. Cioè anche voi allora, cioè dovete restare solo voi in Parlamento? Buttiamoli fuori come fece Gesù. Calma. 2000 anni fa Gesù Cristo cacciò in malo modo i mercanti dal tempio. Gli rovesciò i tavoli. E allo stesso modo, Presidente, dovremmo sbatterli fuori dalla Camera e non lasciarli fare i porci comodi. Presidente, facciamo come Gesù Cristo che li buttò fuori. E li buttò fuori a calci. Grazie. E sul mio orecchio. La pace sia contenta. Ma d'improvviso torna il bruciore. Un altro Cecconi dice fate schifo. Cioè, per la storia dei, no, dei lobbisti. Ma non perché ci sono i lobbisti vanno benissimo, cioè dovrebbero essere più trasparenti. E tutti i lobbisti che, no, che stavano lì a premere per buttare un emendamentino sulla legge di stabilità per ottenere qualche mancetta, qualche prebenda. Forse ha ragione pure Cecconi. Il problema è che ce la fanno passare nottetempo. I lobbisti, se vogliono far passare una cosa favorevole, ma non quella per l'orchestra di Verona, il San Carlo di Napoli, l'altro per l'associazione calabrese, devono essere battaglie più importanti, non queste mance, Cecconi. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Questa legge di stabilità fa schifo. vi spartite milioni di euro, anzi miliardi, perché l'ammontare delle marchette ammonta circa 1,5 miliardi di euro, mentre il popolo scende in piazza e esprime tutta la sua rabbia. Zanzara, giusto per la fine dell'anno, eh? Alessandra Mussolini, buonasera. È caduto il telefono, che ha fatto? È caduto, adesso torniamo, dai. Giuseppe, provincia di Messina, dai. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo e auguri di buon Natale. Allora? Ciao Giuseppe. Allora, ascolti, io voglio tornare sul caso Lampedusa. Non so se le parole di buon anno ieri sera fossero, ci fosse un velo di razzismo, spero, mi auguro di no. Un velo. Ma comunque io paradossalmente sono d'accordo con lui. Io ho avuto a che fare con gli operatori che lavorano a Lampedusa, perché sono gli stessi che hanno lavorato anche in un altro CARA, qui a Sant'Angelo di Brolo, vicino Messina, un posto un po' più piccolo, perciò quindi il paragone si vede un pochino. E posso dire che sono degli operatori in gambissima. Secondo me sono sottoposti a una gogna mediatica, dalle immagini, perché io penso che se tutti quei gli eritrei che sono arrivati lì a Lampedusa avessero avuto a che ridire con gli operatori che gli stavano facendo, diciamo, la doccia, secondo me avrebbero anche fatto una mezza rivolta, e non mi sembra che questo è successo. Ma adesso, al di là della rivolta o no, è stato montato un caso assurdo. Un caso allucinante. Come è montato? È stato montato un caso giornalistico. Ma chi se ne frega? Va benissimo l'inchiesta giornalistica. Le condizioni in cui questi, ma quali condizioni? Non trattati. C'è nessuna condizione. È evidente che non si tratta di un albergo 5 stelle, no? È chiaro a tutti, cioè, no? Tutti non è una che spa. Si sono indignati. Chiaro. Alfano in testa, Alfano. Ma è la solita testa. Cosa italiana, l'indignazione perché vediamo le immagini. Ma, c'è un motivo, immagini normali, immagini normali. Ma certo, non si deve poter... essere normale che un che centro cosa? Di permanenza temporanea. Ah, non bisogna fare la disinfestazione contro la scatola, non bisogna farla. Sì, bisogna farla all'aperto, c'erano 18 gradi, 16 gradi. Va organizzata meglio, può darsi. Gradi? Ma che sei, metterò? Ma va organizzata, guardia, va organizzata meglio, può darsi che vada organizzata va meglio. Fatta in condizioni umane, non di dignità delle persone. Ma non che c'è che nessuna offesa alla dignità di nessuno. Ma che bisogna farlo? Con le cremine? Con le cremine facciamo adesso, la disinfestazione, ma dai, su. Le cremine, ma voglio dire, sono esseri umani. Come basta quella... con questo piagnisteo ogni volta, basta con una questo piagnisteo di ogni sono volta persone. Con questi. Ma sì, ma va benissimo, ma nessuno dice che bisogna fucilarle. Nessuno dice che bisogna fucilarle. Si tratta di una cosa normale, di un provvedimento sanitario normale che viene preso. Forse si potevano mettere dei tendoni, cose forse di questo si tipo. Si potevano mettere dei, ma bisogna tendoni, farle all'aperto per motivi docce, chiari. Ognuno con la sua doccia, ma nelle docce magari non con si può l'acqua fare. Calda, magari con l'acqua calda, magari. Magari dandogli anche un accappatoio, magari sono esseri umani. Esseri ma chi umani. Dice il contrario? Chi dice il contrario? Chi dice il contrario? Senatrice Mussolini, buonasera. Buonasera. Come va? Come state? Beh, ce la caviamo. Stavo sentendo, devo dire che io sono stata lì a Lampedusa, sì, al centro. Allora. E allora perché l'Europa si sorprende? Visto che sono in sovrannumero, non ci sono i letti, non ci sono i bagni, ci sono i bambini sbattuti per terra come fossero degli animali. Appunto. Quindi l'Europa, anziché sconvolgersi, se riprendesse l'Europa. Beh, non è oppure così semplice. Deve dare ulteriori soldi per fare dei centri, perché noi non ce la possiamo fare. Ma infatti l'Europa che si indigna è un'altra delle ridicolaggini. L'Europa? Ma pensassi a lavorare anche l'Europa per le nostre frontiere che non fanno niente dalla mattina alla sera. Senta, lo manda un messaggio di auguri per Natale al signor Alfano? Ecco, Alfano ha detto che è stato un ottimo risultato questo del che sono stati ripresi questi due. Si dice che la giustizia funziona, ma è il contrario, evasi. È il contrario. Ma invece lo scandalo è che sono evasi. Cioè, oppure che il permesso premio se ne sono andati e non si sono più fatti vedere. Io non vedo tutto questo risultato. No, ma su questo ha ragione lei, perché oggi ha detto... li hanno presi, quanto avranno speso di forze dell'ordine? Vabbè, quello è questo però. Va bene, ma come fai a dare il permesso premio? E il giudice di sorveglianza, va tutto bene? Se la prendo con il direttore del carcere, il giudice? No, poi dicono una cosa, dicono che i permessi premio sono un segno di civiltà, lo diceva oggi uno dei capi del DAP. L'ha detto la cancelliera. Ma va benissimo, per carità, va tutto bene, però non è che uno li deve dare a gente che se li merita. Non è che tu passi un anno, quello due anni senza avere... faccia! quello già lo vedi in faccia e dice: ma io ho il permesso premio, a te non te lo do. Diciamo che la faccia vediamo l'anno prossimo. Io a uno, ragazzi, diciamo la verità, a uno che ha commesso tre omicidi omicidi, esatto, con la pietra in testa alle persone, evaso più volte, rapinatore eccetera, in America questa gente qua, in America, nei paesi normali, questa gente qua rimane in galera 20-30 anni, dopodiché esci. Ma questi 20-30 anni, ma com'è che io mi trovo d'accordo con lo so, ogni tanto no, però voglio dire, non è che adesso si deve smantellare tutto, cioè a fronte di un errore burocratico di questi qui, di questi passacarte. No, non è un errore burocratico. Ma no, purtroppo è la legge che lo prevede, questa è la cosa drammatica. Ma c'è una discrezionalità del giudice, deve valutare che fai il pluriomicidio, lo metti fuori in permesso premio. Diciamo, e poi magari metti in galera quello che ruba la mela sul supermercato. Non mi dica anche lei i permessi premio, è difficilissimo. Dica anche lei che Berlusconi non viene dato il permesso per andare in Europa. No, per carità, adesso vediamo quello che succede con Berlusconi, è una cosa vergognosa. Ma cosa? Sapete che è successo? È la cosa più vergognosa? Che è successo di vergognoso? Che il presidente della giunta delle immunità e delle elezioni, Dario Stefano, ha scritto il libro. Momento di gloria, ha scritto il libro. Con tanto di resoconti verbali, tutto preso in giro di Berlusconi e dei deputati. Cioè lei dice vuole fare i soldi con Berlusconi, dice lei. E li sta facendo, il libro costa un botto, l'ho dovuto pure comprare. Ma costerà 10. Perché ho dovuto fare un intervento in aula, volevo avere il libro. Vabbè, allora gli è servito. Comunque lei dice una vergogna che fa i soldi con ma anche una questione di opportunità politica. E poi l'ha scritto durante i lavori della giunta. Quindi significa che hanno fatto quella messa cantata sul fatto dei posti di crimi che avevano violato il segreto della Camera di Consiglio, e poi questo ti fa il libro. Tra un po' farà anche il film, come quella lì, la Meredith Percher. Cioè, non ho parole, dovrebbe dimettere. Con i capelli con la riga in mezzo che mi sembra pupo. Cioè, non so se ce l'avete presente. Sì, come no, Stefano. Allora. Ma non è un bel uomo. Uno che ha un ruolo così delicato, che decide della decadenza del leader del centrodestra, scrive il libro. Beh, vabbè, questo c'è la c'entra la riga in mezzo. Adesso faranno una fiction, sicuramente lui farà il testo, una sceneggiatura per una fiction. E c'ha pure la riga in mezzo, dice lei, no? E farà il ruolo pure lui da protagonista, perché il libro l'avete visto, lui col primo piano facendo finta di non guardare in macchina e Berlusconi poveraccio dietro. Però scusi, adesso lei che è una persona spiritosa, onorevole Mussolini, lei è una persona spiritosa, però questa storia era ormai incazzata nera. Ma con chi è incazzata soprattutto? Con Alfano com'è? Una bestia lei ancora o no? O gli è passato un po'? Alfano io non l'ho apprezzato, perché se ne deve andare in un momento di debolezza, ma perché? Per fare che? Per stare a dare la stampellona a Renzi, Renzi non ha bisogno più né di Alfano né di altri. Perché, ormai lui se la deve vedere con Letta, che è dimagrito, l'ho visto adesso da Bruxelles, dategli da mangiare. Perché? E non ci sta più, non lo so, è stravolto. Da quando è stato eletto Renzi, Letta avrà perso una ventina di chili, minimo. Però scusi un attimo, ma questa cosa qui che Berlusconi vuole trasformare i club di Forza Italia o quello che è in una specie di nursery, Forza Silvio, Forza Silvio, ride pure lei, meno male che ride pure lei, però i club Forza Silvio in una sorta di succursale dei centri per i cani, ma dai su, ma pure questa cosa che tutto è tutto centrato sui cani, no, perché lui ha detto che c'è questo, guarda che gli italiani sono amanti degli animali. Ha cani, signora Mussolini? Delle bestie. Certo, voi lo sapete, c'ho due cani, uno schnauzer gigante e un chihuahua. Chihuahua dorme sopra alla bestia nera. Beh, lo schnauzer potrebbe accoppiarsi con Dudu. No, verrebbe fuori un mostro. E quello l'ammazza. Verrebbe fuori un mostro. Verrebbe fuori un mostro, ma stiamo scherzando. Come si chiama lo schnauzer? Judy. E il coso, quel piccoletto invece? E il chihuahua Consi. Consi perché il Consiglio di Stato l'ha preso nel 2005 quando fece Alternativa Sociale, vi ricordate? Come no, Consi. Conzi, ma Dudu le sta simpatico a lei? L'ha mai incontrato? Sì. Carino, l'ho visto, morbidissimo. Sì, morbidissimo, sì, sì. Morbidissimo. Sì, un barboncino tutto con la faccettina, carino, molto. A chi carino. Assomiglia? E poi lo hanno detto, assomiglia a un cane. E poi lo hanno detto, i cani, quando sì. Dovreste farvelo pure voi, no, i cani quando no. Girano in ufficio abbassano la pressione arteriosa, fanno bene veramente la salute, sì, così sì. Hanno... Sì. Hanno fatto un sondaggio. Vabbè, però questa cosa qua sta diventando una cosa ridicola anche, no? Beh, Berlusconi che vuole dare i veterinari a tutti, dice che ci vuole un veterinario nei club. Ha detto che noi dobbiamo portare fuori i cani sì. A fare i bisogni, così facciamo un servizio per la collettività. Come? Non ho capito. Che ha detto Berlusconi che dovete portare? Voi chi? Deputati? Cioè, certo, deputati. Dovete portare? No? Dobbiamo, per fare qualcosa per il volontariato, sì, per certo. Il club, portare sì. Fuori i cani a fare i bisogni. Cioè anche gli altri cani, i cani degli altri, dice i lei? I cani degli altri, i cani dei cittadini. Ma dai, ma non sta bene, sitter. Se lo diceva davvero... No, ma scusi, ma voi ma che avete risposto? Dog sitter! Noi abbiamo detto volentieri. Ma come volentieri? Pur di essere ricandidati, non porti giù a fare la pipì al cane. Ma lei ce lo vede Gasparri? Gasparri che porta fuori il cane. Dai, ma tutta la vita. Cioè dovete aiutare, aiutare i cittadini a certo, magari l'anziano che non gliela fa la sera, è stanco e stravolto, gli portiamo fuori il cane. Ma cosa non si fa? Ma noi siamo peggio di voi, ma abbiamo superato. Dice i giornalisti, dice leccaculismo, dice certo. Lei, leccaculismo pazzesco. Anche la satira, anche il comico. Comunque sta cosa qua è clamorosa, io no, sta cosa dei veterinari. Ma no, perché la gente, gli italiani amano i cani. Ma si sapeva già, perché? Ma non si sapeva, lui è innovativo su questo, lancia l'ha lanciato pure Facebook con Dudu, che scherziamo. Ma no, ma ho capito, ma non è tutto, adesso per carità, va bene tutto, la propaganda. È una parte, così come ha detto che tutti quelli che hanno una parte della giustizia, problemi con la giustizia, sono tantissimi, possano avere un punto di riferimento. Vabbè, quello si sa. Hai capito? Quello si sa. Ma vabbè, intanto così, Renzi invece che dice? Ma Renzi che dice? Con la legge elettorale. Si è fissato con la legge. Tra una battuta e l'altra. Ma la Boldrini? La Boldrini in volo che dice lei? La Boldrini? Ma la Boldrini lasciamola in volo. Vabbè, questo va bene. Però voglio dire, è una polemica assurda oppure una polemica che ha un suo fondamento? Anche la Serracchiara è andata a Ballarò. Se i parenti, quello del parente in volo? Sì, no, e lei è andata col fidanzato. Col fidanzato, sì, giù a col compagno. Ma sì. Che dobbiamo fare? Se il compagno paga, che problema c'è? No, non ha pagato, ma non deve pagare. Era a carico, no? No, ma no. Era carico, era ospite, c'era un posto libero nell'aereo di Stato. E ha sbagliato, perché quando uno va, a meno che non ci sia... una rappresentanza che questo fa una cosa, un lavoro. Ma lei dice che è una cosa di sessismo, perché quando si parla dei... No, ma quando mai? Anche a Maffella, credo, mi ricordo, pure l'hanno massacrato, sì. Ma certo, quindi ognuno quando tocca. Scusi, ma chi comanda in questa nuova Forza Italia che non si capisce niente? Ancora Berlusconi non ha fatto solo Berlusconni, vabbè, Berlusconi e basta. Berlusconi è il nostro punto di riferimento. Cioè, alza un dito. Danielina anche un basta. Po'. Alza un dito. Resto, poi c'è la classe dirigente, poi ci abbiamo tutti classe nuovi, dirigente tutto adesso. L'esercito di Silvio, il club di Forza Silvio, mica credete che qua dai l'esercito di Silvio non ci crede neanche lei. Certo, le sentinelle della libertà, ma certo, ma non si può credere a questa roba. Ma lei metterebbe le mani sul fuoco per Gasparri, per esempio? Per la storia le mani sul fuoco, io le mani sul fuoco non le metto per nessuno, ma per la storia dei 600.000 neanche per le persone strette. No, le mani sul fuoco non si mettono, però bisogna vedere quello che uno dice e prendere atto. Lui ha detto, dice che era per assicurare, sì, ha spiegato. Lei ci crede a quello che ha detto? Ci crede a quello certo. Che ha detto? Ci crede, io ci credo. Cioè non ha preso, com'è uno in testa una polizza personale? Io ci devo credere, perché ci deve quando credere. Lui ha spiegato quello che doveva dire, lo ha detto, lo facevano tutti, perché le regole sono state cambiate in questa legislatura. Prima non c'erano neanche i controlli, lo hanno fatto tutti. Comunque, guardi, io le dico una cosa: c'è una senatrice che si chiama Taverna, lei la conosce, che dice che sputerebbe. La conosco bene, tremenda. Sputerebbe in faccia a Berlusconi, ha sentito? Sì, che lo cosa so, lo so. Questa qui, questa, questa sì. è una che quando interviene in aula sì. Ti prudono le mani. Addirittura? Perché ne dice talmente tante in modo proprio... Sì, vuole sputare così, in faccia a Berlusconi. Vuole... Lo so, che è un miracolo che non sia ancora successo niente, perché noi stiamo fermi, tranquilli. Perché l'istinto è quello di picchiarla. Una nave da un schiaffetto. No, ma è quello di mandarcela. Mandarcela, d'accordo, lei dice, prudono ma le mani. Bella tranquilla, però. Ah, ma dove? A fare in culo, dice lei. Sì, però, d'accordo. Ma mandarcela. Ma se uno prudono le mani, che vuol mandarla dire? Mandarla in giro a far fare la pipì ai cani. Perché quando io sono stanca, gli do il cane a lei e lei porta in giro il cane. Però, c'è l'unica cosa che può fare. Però, scusi, mandarcela. Però è sanguigna, è forte sta taverna. Cioè, riscalda gli animi di quelli da combattimento, 5 Stelle in Parlamento. Incarna una certa. Lo so che vi piace. No, però a me non lascia il tempo che trova. È facile fare questi discorsi in aula. Comunque è, guardi, le dico una cosa, che alla fine il Papa è stato eletto dalla rivista gay principale come uomo dell'anno, rivista americana. A me questo Papa piace molto. Questo non è. Allora sei stato scelto dalla. Quindi un punto. Cioè non è non è una cosa irriverente, ci può stare, ma no? Assolutamente no, non si parla d'altro, ragazzi. C'è solo il Papa, dici? C'è solo il Papa. No, ci sono solo. Senta, ma fosse vero ed è stato smentito che quel vostro uomo assessore in Abruzzo ha fatto firmare un contratto per fare sesso alla segretaria, cosa vuole dire a questo signore innanzitutto? Cosa vuole dire? Ma che ne so, diteglielo voi. Io ma è del suo partito però. È un po' imbarazzante l'accusa. Fosse vero, perché è stato smentito. È molto grave. Comunque un pensierino di Natale per Alfano, lo vogliamo fare? Un augurio di Natale per Alfano, essere un po' più allegrotto quando parla, è sempre ingrugnato, c'ha sempre queste sopracciglia, questi occhi che non si sa dove guardano, mamma mia. Cioè più serenità, perché cioè, impettito, gli italiani troppo vogliono anche un po' di serenità, è sempre accigliato. Lo credo dopo la scelta che ha fatto. Sai quanto si sta pentendo? Dice lei? Mamma mia. Perché? Ma sì, lo sa per certo? Ma si sta pentendo, perché lo danno al 3-4%. Ma le volte le scelte si fanno al 3-4%, vuol dire che arrivi veramente all'1,5%. Dice lei così, arrivi sì. all'1,5%. A fini lo davano all'11%, ha preso il 2, forse meno. Però io voglio dire una cosa, questa storia che Berlusconi vi vuole con i cani dell'Italia al guinzaglio è una storia fantastica. Con i cani degli altri. Ma come si fa veramente? Come si farà a fare questa cosa, a realizzare questa desiderata di Berlusconi, questi desideri, queste dog sitter, queste volontà di Berlusconi? Questi noi diventeremo tutti dog sitter, vuol dire che Berlusconi ordina e noi eseguiamo. Ti piace questa? buona serata, grazie, auguri. Grazie, auguri anche a voi. Ciao. Grazie, saluti. Non mi molesti il moschito. Why don't you go? Bologna, buonasera Marco. Buonasera. Dimmi. Cruciani, complimenti a lei. Parenzo invece è veramente un parassita. E spiego parassita. Perché. Un parassita ipocrita. Perché io vorrei sapere se lui nella sua vita, non voglio fare la sua vita privata, però se esce con Zingari, con nordafricani, ci va a cena fuori, ci fa le vacanze insieme. È amico, non è necessario. No, ma tanto per sapere, perché non capisco perché a priori debba sempre difendere questi esseri immondi. Questi non sono esseri immondi, non è che sono esseri immondi. No, non sono esseri. Sono felice di essere diverso da lei, sono come lei, perché gli zingari puzzano. No, non è come me lei. Prima gli zingari puzzano tutti, in assoluto, puzzano tutti gli zingari. Puzzano, ma lo sapete anche voi che puzzano, che rubano, lo sapete anche voi o no? C'è una buona quantità, Perché non ci va lui Lampedusa con la il mazzo di fiori quando arriva? Ma perché? Cosa vuol dire che dobbiamo farlo noi con i nostri soldi? Ma perché non ci va lui? Ma lui chi? Parenzo. Io vale che vada. Invece di per sedere sul seggiolone lì, lui va in Lampedusa, quando arrivano gli dà l'accappatoio, gli lava la schiena con la spugna e poi gli dà anche un mazzo di rosa. Lei è cresciuto con la civiltà occidentale o è cresciuto in altri posti? No, io sono cresciuto come l'80% degli italiani che hanno il coraggio di dire che siamo razzisti, quasi tutti. Vuoi mettere la cremina? Parenzo, vuoi mettere la cremina? Sì. non fate gli sciocchi, non fate gli sciocchi, si tratta di dignità, perché quelli che adesso scrivono, anche quando noi sbarcavamo a New York, a Ellis Island, era così, ci trattavano, ma erano gli inizi del Novecento, ma di che parliamo? Ci siamo evoluti, le civiltà si evolvono per fortuna. Pubblicità. Cercasi Stallone, privo di neurone. Cercasi Stallone, privo di neurone. Like Madonna and Demi Moore, Demi Moore, Demi Moore, Demi Moore, Demi Moore. Si vive e si muore fingendo l'amore. Si mente e si gode senza margine. Tu penserai che sono impazzito. No. Tu penserai che sono impazzito. No, immaginavo la faccia del signor Squinzi, cioè degli amici. Degli amici. Caro molti, Squinzi, non siamo impazziti. Gente di Confindustria che sono lì in macchina. Dopo giornata stressatissima, così d'amministrazione, eccetera, dice: tende in amore. Scusi, ma cos'è? Battono sulla radio. La radio. No, ma la frequenza è questa qui? È Radio 24. Che succede? Che orrore. Ma no, non è un errore per niente. Che succede? Allora, annunciamo la presenza più tardi. Tardi sulle frequenze di Radio 24, sì, la Zanzara. Di Dalimonte, professor Dalimonte. No, no. Di Iulla Preti, 42 anni, uno dei leader dei forconi a Reggio Emilia. Uno dei leader dei forconi a Reggio Emilia. Tutto finito, lo sapete. Ha composto questa canzone che sentite, naturalmente. Voglio uno Stallone privo di neurone. Interessante. Beh, siamo al top, eh. Chi è la madama che canta? Chi è una forconessa? È lei, è lei. Nostra ospite, ovviamente, più tardi, su da Radio di Confindustria. Mi pare normale, no? Animale. Ma scusa, ma Squinzi non ha detto che sono comprensibili le proteste dei forconi? Sì, ho capito. Non è forse stato lo stesso Squinzi. Non faceva forse riferimento direttamente a questa signorina, a questo poeta della modernità. D'accordo, però alla fine, diciamo, magari tra le ragioni della signora Preti, e non c'è poi così, no? Questa grande distanza. Preti si chiama, peraltro. Preti, sì. È una doppia presa per il culo. Preti, canta ste canzoni. Beh, Preti, sì. Perché? Qual è il problema? Preti, Preti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Vai, attacca! I Rom a casa loro, non in Padania. Prendi un bel Rom, che in metropolitana sta rubando il portafoglio. Portalo in un centro di permanenza, spoglialo. E poi buttagli l'acqua addosso, fredda possibilmente. Guarda oltre i monti. Guardalo in faccia mentre trema dal freddo il povero Rom. Vai vedere. Poi non dargli i vestiti puliti, perché tanto è uno zozzone. Caro il mio Rom, vai vedere. Torna pure in Romania. Anche se non è vero che i Rom sono rumeni, ma tu sbattilo lì lo stesso, chi se ne frega. Ottima trasmissione, sempre la migliore. La libertà. Comprati un paio di boxer verdi. Servi di Roma fuori. E regalalo pure al povero Rom. Così diventerà uno di noi. Prenda atto che ormai è tutto finito. Servi di Roma fuori. Senza dubbi né ripensamenti. L'epopea di Radio Padania continua con Sammy Varin, il mitico conduttore della mattina. Il mitico Sammy Varin, lo voglio un giorno qui alla Zanzara. Ma è arrivata la notificazione della querela per diffamazione? No, dai, basta con sta querela. Dai, su. Forse la ritiro. Dai. Forse la ritiro. Guida il popolo nella tempesta. Chiudiamo i centri di identificazione per farli ciabattare in giro malati. Senti, Varin, lo voglio fisso. Chiudiamo tutti i centri di identificazione ed espulsione. Bella soluzione, bella soluzione. Così, così il tranquillo immigrato ciabatta sotto casa nostra, malato o non malato, non ce ne frega niente. Tanto noi qua moriremo tutti di qualche male gravissimo. Tocchiamoci, certo. Lo lasciamo ciabattare in giro dovunque voglia, tu dici? Servi di Roma fuori. Poi se la prende con un ascoltatore straniero. Senti, senti. La faccia di merda, non ti vergogni a parlare così male di immigrati? Un pochino a volte sì. Sei proprio un deficiente. Io ho mai visto una persona così. Beh, no, non ci siamo mai visti in effetti, eh. Ah, però se ti vedi ti faccio il culo, però. Beh, se avete questa usanza, insomma. Quando mi vieni a trovare qui in Bellerio? Ignoranti, deficienti. Sono un coglionito. Hai preso anche tu, hai comprato la laurea come il figlio di Bosse? No, no, non sono laureato, ho fatto il liceo. Tu invece cosa hai studiato? Allora, vai a fare il contadino. Cosa hai studiato tu? Meglio di lei. Sani Padania. Questo è bello. Qui è mi ha tirato due stecche sui denti e gli ha detto bravo. Senti questo ascoltatore, sempre questo di mi è piaciuto qua. Molto questo ascoltatore. Bravo. Senti quest'altro. Che ieri ha spruzzato i parassiti, non ce n'è più, sono morti tutti i parassiti. E quello che diceva Miglio, con un parassita muore un animale, con un parassita muore uno stato, ma li hanno spruzzati. Hanno fatto bene a sparare al ladro albanese lì in provincia di Brescia. Ha fatto bene quel ragazzo di Serle a sparare con l'albanese che ha rubato in casa sua. Ha fatto benissimo. Un ladro bastardo in meno. Servi di Roma fuori. Beh, diciamo che c'è qualche dubbio, perché nel questo qua è... quando vedi correre un immigrato fuori dalla metropolitana, sicuramente ha rubato. Non è vero che stando al lavoro e tu sparagli. Quando vedi un rumeno che corre, non sta andando in un cantiere da abusivo. Ha scippato la vecchietta di Milano. Tiragli uno scarpone addosso. Che carogna che siete, vabbè. Senti quest'altro per concludere, senti quest'altro. Questa è radio, ovvio. Ma Maroni, ma l'ascolta il signor Bobo Maroni? Ma è giusto, intervengono gli ascoltatori, ma che cazzo vuoi? Ma poi gli ascoltatori, ma che roba è terribile. Senti quest'ultimo, dicono. Senti quest'ultimo. Ma non erano migliori i tempi del Duce, che tutti questi extracomunitari di merda non c'erano, ok? Giusto? Ci siamo arrivati? Io sono la fascista di quelle proprio. Non mi anche voi della Lega siete un po' fascisti, ma non lo dite perché è normale che non dovete dirlo. Non dirlo. Io non lo dico, ok, non l'ho detto. Comunque la Lega è dopo il fascio, perché i fascisti, i veri fascisti non esistono più, perché quelli che sono andati in piazza a far casino, i veri fascisti non vanno in piazza. No, fanno le cose diversamente. Servi di Roma fuori. Io questa qua la voglio conoscere però, questa signora che ha chiamato, prima la Lega poi il fascio, ha detto, prima la Lega, prima la Lega poi il fascio. Vabbè, siamo qui. Servi di Roma fuori. Sara da Trento, eccoci. Dai. Buonasera, sono Cusani. Sì, dimmi cara. Senta, io odio la Boldrini. Va bene, però abbia pazienza, si faccia una bella cura, perché non no, è che uno no, può... No, le spiego perché. Perché in Veneto si dice che le bronze quarte sono quelle che mettono di più. Bronze. Le bronze quarte, lo sa Parenzo cosa dico? Ma che vuol dire Parenzo? Bronze traduci. Quarte sarebbero le il fuoco, come si dice, le bronze, quelle del fuoco, il carbone? Boldrini è sempre lì, ogni volta che apre bocca sembra tutta dimessa, tutta compassata, tutta a me mi fa un po' impressione, perché cioè, mi sembra una santarellina di prima riga, magari mi sbaglio proprio. Ma una santarellina non no è, lei non dice è. Bronza quarta vuol dire cioè il fuoco, sì, no? Sì, è sempre lì che sembra che non bruci. Ah, una maestrina sì, scusi, non c'è, cioè, veramente. Vabbè, ma ognuno ha i suoi gusti. Io che la sento parlare io spengo la radio o giro canale alla televisione, perché non ne posso più. Cioè, mi piaceva di più la Pivetti, anche se andava col fazzoletto in testa, perché mi ricordo che una volta andava col fazzoletto in testa, però era almeno un po' più simpatica di questa. Vabbè, è de gustibus, cara, anche a me non fa impazzire, cioè, vuol dire, così sarà capito in modo abbastanza esplicito, non appassiona nemmeno la sinistra, guardi, le devo dire, io conosco un sacco di gente de sinistra, che proprio non la sopporta, non la sopporta. Grazie. Sì, ma veramente, cioè, è insopportabile. Anche cara Sara, l'abbraccio fortissimo. È con noi un mito, una leggenda, lo è diventato in queste ore, Giorgio Assenza, deputato Forza Italia alla Regione Sicilia, buonasera. Buonasera a lei, quale onore, un mito, una leggenda, solo perché uno dice quello che pensa. Ma sai, di questi tempi, caro Assenza, non è una cosa semplice, no? Lei ha sfidato, come dire, ha sfidato questa orda anticasta, no? Ma dove sta che non si sente una mazza, Assenza? Vabbè, non si sente niente, ragazzi. Sarà in autobus, tra dai, su, Giacomo da Bologna, sì, Giacomo. Pronto? Dimmi. Buonasera. Allora, innanzitutto vorrei sapere dove pescate certa gente che vi chiama per parlare di argomenti che sono anche importanti. Oh, prima in tutti gli audio della Lega ci sono stati forniti dal signor Sensi. No, no, no, Daniele avete Sensi. Anche voi una gran bella collezione, avete anche voi una gran bella collezione. Ma lasci perdere questo, ma che vuol dire? A prescindere, andiamo al punto. Io vorrei capire una cosa, ma sulla questione di Lampedusa si potrebbe semplicemente dire che semplicemente non ci sono i mezzi? E che arriva troppa gente rispetto a quella che si può accogliere, gli si può dare, diciamo, un posto. Questo umano, non lo so, questo non lo so. Guardi, è normale. Cioè, queste sono nozioni economiche che sono di inizio del Novecento. Le risorse sono limitate. I centri di accoglienza non sono alberghi a 5 stelle. Si poteva fare qualcosa di meglio. Ma non potranno mai essere. Si poteva fare qualcosa stelle. Di meglio, non c'è dubbio, in quell'occasione. Bene, dopodiché, allora, fino adesso, siccome non è uscito niente, fino adesso, non era un lager. Perché se fosse stato veramente un lager con la gente in fila, tremante, nuda, a subire la disinfestazione, sarebbe stata già scoperta la cosa. È difficilissimo accedere ai centri. Sì, però sentiamo della gente parlare come se a questo punto dovessimo noi organizzare i barconi in modo tale da rendere sicuri anche quelli, portarli direttamente noi in sicurezza qua e poi dopo accoglierli. Il problema è che tecnicamente non ci dovrebbero essere quei barconi. Non ci dovrebbe vabbè, non ci dovrebbero essere, però non è che uno li può fare evaporare quei barconi, no? No, bisognerebbe andare come ha detto Luttuak, bisognerebbe andare lì in loco e bombardare. No, che bombardare adesso? Come no? Ma i barconi non con la gente, non con la gente dentro, a farli affondare i barconi, non devono partire. Ah, okay, grande okay, lavoro okay, di intelligence. Okay. Permessi sindacali a Napoli, divento pazzo quando sento queste cose, quando leggo queste cose. Permessi retribuiti nei giorni delle feste, bufera sul comunale. Ma quale bufera? Bisognerebbe cancellare tutti i permessi. In questo caso cancellare tutti i permessi. Pronto? Cittadino Comune di Napoli. Buonasera. Qui è la Corte dei Conti. Dica. Senta, stiamo facendo un'ispezione sui permessi sindacali a Napoli. Sì. Al Comune di Napoli. Allora, mi dica. No, stiamo facendo una inchiesta, stiamo cominciando con le telefonate, poi veniamo di persona. No, ma guardi, comunque i centralini, non so, forse lei vuole parlare con qualcuno. No, ma noi stiamo partendo dai centralinisti per capire se al Comune di Napoli è vera questa storia dei delegati sindacali, che sono tantissimi e hanno ottenuto dei permessi retribuiti durante le feste. Lei per esempio è un delegato sindacale? Questo non lo so, io non lo so. Ma lei è iscritto al sindacato? No. Lei non è iscritto, è uno dei pochi che non è iscritto al sindacato. Guardi, mi scusi, sono il capo dell'ufficio, buonasera, la disturbo? Mi scusi, sono il capo dell'ufficio, dottor Manis. Disturbo? Pronto? Sì, pronto, scusi, sono il capo dell'ufficio, so che ha già parlato col collega, col direttore responsabile, sono il capo dell'ufficio. Intanto... No, senta, guardi, comunque mi dico con chi vuole parlare, perché io... Onestamente mi state anche altre chiamate in coda, quindi se sì, posso... ma questa è l'ufficio del personale, l'ufficio del personale c'è? Cioè... Ma quest'ora non è chiuso. È chiuso, è chiuso. Troppo tardi, 20:14. Ma lei è un sindacalista? Lunedì mattina. Scusi un attimo, ma mi passi un attimo l'assessore al personale? Se c'è. Un attimo solo. Passo, prego. Ecco uno di Napoli, siamo al top. Però alle 20:15, insomma, sono in ufficio. Sì, effettivamente. No, questa notizia. Aspetta, assessore personale. No, e che ne so che ci passa. Attenda. Prego. Sempre. Permessi retribuiti nei giorni delle feste. Capito? Record di richieste dei delegati sindacali. Pronto? Che cazzo ci ha passato questo? Beh, questo mi ha passato la segreteria dell'assessore al personale. Ah no, ma non risponde nessuno alle 20:15 a Napoli, dai, su. Quanto vuoi scommettere che non risponde nessuno? Momento. Vabbè, al centralino sì. Quanto vuoi scommettere? No, scommetto 100 euro. Che rispondono, no, 100 euro che non rispondono. Di solito leghista sei, dai. 100 euro che non rispondo. Perché sei candidato a Bergamo Alta, come abbiamo detto ieri. Sei candidato lì al collegio della Lega Bergamo, Bergamo Alta. Comune di Napoli, Comune di Napoli in collegamento. Ma alle 20:15 anche al comune di Cologno Nord non risponde nessuno alle 20:15. Aspetta. Anche a Gorgonzola. Pronto? Pronto? Comune di Napoli? Niente, vabbè. No, aspetta, adesso torna il centralinista. Era il signore di prima. permessi l'interno selezionato non risponde. Questo per parlare con un operatore del centralino di Palazzo San Giacomo, digitare 1 digitiamo 1 per terminare la conversazione, digitare 2 no 1 ritorniamo col centralinista, eccolo qua. Comune di Napoli, buonasera. Ma questo è un altro. Buonasera, Corte dei Conti, salve. Stiamo facendo un'ispezione sulla questione dei permessi retribuiti nei giorni delle feste. Ma questo è il centralino di Palazzo San Giacomo. Sì, lo so, il centralino di Palazzo San Giacomo. Qui la Corte dei Conti, stiamo facendo un'ispezione dopo le notizie che sono uscite, per capire se lei, per esempio, come centralinista, sicuramente sarà assunto al Comune, no? Immagino. Sicuramente. Allora. È un sindacalista? Ma io però per telefono non rispondo a niente. No, come lei mi può dire pure sono Giorgio Napolitano. No, vabbè, Giorgio Napolitano non sono. Tutta Giorgio poi. Napolitano. Sono... Vabbè, avrei riconosciuto alla voce. Beh, non c'è ma dubbio. Non, ma quindi per telefono... No, ma è una lei... prima ispezione, poi veniamo... Già ho parlato troppo. No, vuole però... parlare con qualcuno? Scusi, no, guarda che questa qua è la Corte Faccio dei Conti. Ma è il mio lavoro. Ma è la Corte dei Conti questa qua. Non è che... Ho capito. Non è che stiamo scherzando. Non è che stiamo scherzando. Questo è il centralino di Palazzo San Giacomo. No, ma questo il d'accordo. Il lavoro del centralinista è fatto sì, in questo modo. Non c'è lei dubbio. Lei mi fa una domanda, io glielo faccio. Non c'è dubbio. Con chi vuole parlare? No, stiamo facendo un'ispezione telefonica, una prima ispezione telefonica. Io le ho risposto, allora, tutto a posto. Sono buona Giovanni serata. Di Vincenzo. Beh, della Corte dei Conti. Lei come si chiama? Ho capito. Lei come no, si chiama? Non sono tenuto. Non ma come non è tenuto? Ma scusi un attimo, ma questo io sono Giovanni Di Vincenzo della Corte dei Conti. Stiamo facendo un'ispezione telefonica, una prima ispezione telefonica sulla questione dei permessi retribuiti al Comune di Napoli. Lei come si chiama? Io gli ho risposto. Io non sono tenuto. Ma lei è un nostro dipendente, è un dipendente comunale. Mi denunzi, buonasera. Ma è roba da matti questi qua a Napoli, guarda. Comunque ci ha avuto le palle questo qua, traffico. Bravo però. Oh, è tornato con noi Assenza, buonasera, eccoci qui. Buonasera. Allora, caro Assenza, mi spieghi questa cosa, perché lei non vuole andare in autobus da non so dove, da Ragusa a Palermo? Da Ragusa a Palermo, mi spieghi subito. Allora, mi faccia prima dire una cosa, per quelli che sono veramente interessati a capire quello che ho detto io, sì. Io ho pubblicato l'intervento integrale. Ma l'abbiamo già YouTube. Mandato in onda noi, non si preoccupi. YouTube. Ah, vabbè, se è mandato integrale non avete preso una presetta dal no, contesto, abbiamo, allora. Abbiamo mandato un po' di roba, non integrale. Comunque su YouTube c'è l'integrale, su YouTube c'è l'integrale. C'è l'integrale e c'è anche sul mio sito, quindi quelli che vogliono sapere veramente come la penso fanno... hanno solo da pigiare un bottone. Un bottone andando su YouTube. Allora, sì. Io abito a Comiso. Comiso dista da Palermo a 220 km. C'è. La retratezza della sede viaria e ferroviaria della Sicilia, credo che vabbè, nota a tutti. Diciamo che non è che voi problema. Siete colpevoli di questa retratezza. Sì. Non è che siete... Guarda, io sono deputato da un anno a questa parte per giunta di opposizione di minoranza, quindi vabbè. Sarò, sì, non è che Forza Italia io, fate voi, non ha mai governato. Sì, Vabbè, no, dico amico Assenza, sono Parenzo, caro Assenza. Il centrodestra. Il centrodestra ha governato la Sicilia con rispetto, facciamo notare. Ma guardi, io faccio l'avvocato e so che la responsabilità è personale e quindi io mi assumo le mie responsabilità. Comunque, al di là di questo, perché non vuole, dice non vuole andare in autobus, è una questione anche di dignità, non voglio mangiare il panino, quello che ha detto. Guardi, questi saranno pure affari miei, come io voglio spendere i miei soldi, non quelli dell'indennità o cose. Questo deve essere chiaro, no? Allora, in autobus l'ho spiegato, perché io cerco di non fare il politicante di mestiere, sono avvocato e cerco di esercitare la professione. Dopo 40 anni di onorata professione non vorrei mandarla alle ortiche per una legislatura da deputato regionale. In che quindi, senso, scusi? No. Cioè lei dice per fare io la politica non vuole buttare... Io cerco di continuare a fare l'avvocato, quindi magari che torno alle 3 di notte, quando finisce l'aula, come l'altra sera, per quel dibattito, io... prendo la mia macchina con mio figlio poverino che mi è costretto ad accompagnarmi a guidare la macchina perché comincia a non vedere più più tanto bene, rientro. Vabbè, però non è che gliel'ha ordinato il dottore di fare il deputato regionale. Ma nessuno me l'ha ordinato e quindi mi faccio i miei sacrifici che ritengo di poter fare, per carità. Però scusi un attimo, se uno vuole fare politica perché continua a fare l'avvocato? Perché io sono contro i politicanti di mestiere, se questo che si vuole fate pure, se noi dobbiamo fare quelli che devono vivere di politica va bene, se no, questa capito, la, però... la risposta facciamo. Ma perché, lei, capisce perché che uno... lei dice che 11.000 euro lordi, però se lei dice io non posso andare in autobus è come dire uno che fa un lavoro ma e che ogni... Guardi, premetto che io ho votato a favore di questa legge, anzi sono stato uno dei firmatari dell'emendamento che voleva ancorarla proprio quale anche legge, nomi... scusi, quale legge? Quella sulla spending review della Ah, quella che regionale. diminuisce i quella che ha lo portato stipendio. Questo perché 11.100 lordi significa che in busta arriveranno 3-7 gli 8.000. Questo va sommato al tuo reddito professionale. Beh, non è poco, non è poco. Ma per carità, ma nessuno sta dicendo niente. Però non mi permetto di criticare i compensi milionari dei conduttori televisivi che fanno i censori o dei giornalisti che fanno le loro fortune questo facile cavalcare l'anticasta che oggi è così. Però scusi, che c'entrano i conduttori? Quelli non è che li paga lo Stato, non è che li paga lo Stato, alcuni sì. Molti li pagano, i più arrabbiati in questa battaglia li paga lo Stato, cioè per esempio, attraverso i canoni, ma non mi faccia fare nomi. No, li faccia i nomi. Cominciando dai conduttori della Domenicali e via dicendo. Cioè chi? Ma lo credo, Giletti. Ma guardi, Giletti. Non piace fare nomi come fa. No, ma facciamolo, Giletti dice, Giletti è un demagogo e ma guadagna. Questo guardi, l'ho detto a proposito della legge sulle province, quando l'ho definita la legge Giletti, Crocetta, Cancellieri, quella che ha approvato in Regione Sicilia. Quindi guardi se io ho paura di dire queste cose. Cioè lei dice che Giletti fa demagogia coi soldi nostri. Bravissimo. Cioè da qual pulpito viene la predica? Ma non solo Giletti. Perché che ha fatto Giletti? Scusi, che ha fatto? Mica un criminale, mica ruba i soldi Giletti. Ma li rubo io, mi perdoni? No! E chi dice? Allora, guardi. Allora, cioè lei dice che 11.000 euro lordi è una... È un... Allora io dico che la funzione del deputato, se svolta seriamente e con impegno e con professionalità, non può essere degradata ad un semplice rimborso spese. Punto e basta. Vabbè, ma quello rimborso spese, nessuno dice che deve essere degradato il rimborso spese. Perché assenza. Un lavoratore qualunque può prendere questo maledetto autobus Ragusa-Palermo mangiare un panino nella pausetta allora, pranzo? Perché caro il mio assenza? Se io perché? Mangio un panino, sono fatti miei. Se io vado al ristorante, sono fatti miei, caro Parenzo. Non è che io li metto per scaricarmele dalla busta paga. Io non ho portato nemmeno... Pure questo è vero, una ricevuta di pranzo di cosa. Quindi guardate che con me avete sbagliato bersaglio. No, anche bersaglio, sono, no. Non bersaglio, non è un combattente, vero? Il fiorito di turno. No, guardi, ma che fiorito? Ma nessuno vuole dire questo. Lei dice che... Tutto sempre del mio lavoro correttamente e onestamente, ne vado fiero. E quello che ho detto proprio perché... Non ma scusi, il finanziamento pubblico per lei ci deve essere in politica? Finanziamento pubblico no. Guardi che io ho mantenuto la sede del mio partito, che è quello originario del MSI, quindi capisca da dove provengo. Sì, certo. E se faccio un po' di conti, sempre con i soldi usciti di tasca, cosa che continuo a fare per le sedi attuali o per i circoli, anche provinciali. Comunque lei dice 11.000 euro lordi al mese. Io dico che se confrontiamo con gli stipendi dei direttori di banca, non parliamo poi dei grandi manager o dei... Vabbè, quello che c'entra però. Non c'entriamo nulla, ma allora facciamo lo stipendio di 1.000 euro, per carità. No, 1.000 euro? No, perché? Ma i grillini che lo portano a 2.005? Ma che chi gliel'ha detto? Andate a controllare se volete fare giornalismo. A livello nazionale sto dicendo, non so che succede da quelle parti, non ho seguito bene. Comunque. E voi siete sicuri che l'indennità dei grillini è 2005 quello che resta? O non giocano col discorso del rimborso? Fatela seriamente l'inchiesta. In Sicilia che succede? Giocano con i rimborsi? Ma in Sicilia loro hanno accantonato delle somme sulla indennità, prendono tutto il resto, compreso il rimborso, e quindi prendono 2.000 meno o 2.500 meno degli altri, non che prendono, restituiscono. Alcuni non l'hanno fatto, ci sono state anche comunque delle, scusi, andare in autobus da casa sua sarebbe un dramma assoluto, cioè sarebbe una cosa complicata. È impossibile perché ci sono tre giornaliere corse. L'ultima delle quali alle 18 e quanto ci mette? Da Palermo ci impiega 3 ore e mezza. Se lei ritiene che questo sia normale. Con la macchina finisce... quanto ci mette lei? Invece? Con la macchina ci metto 2 ore e un quarto. Vabbè, non è che ci sia sta differenza. C'è molta differenza. Sì, un'ora, un'oretta, sì, certo. Non c'è. Beh, legge magari ma la macchina ce l'ho sotto il palazzo, diciamo. L'autobus a mezzanotte non lo trovo. No, ma perché è nata sta? Perché lei si è incazzato così tanto dicendo non vengo in autobus, non mangio il panino, mangio come mi pare a me? Perché? Mi sono incazzato perché secondo me questa polemica è un piano inclinato, perché anche se facessimo indennità pari a zero, ci sarebbe sempre qualcosa da ridire. Ma Rizzo e Stella come li considera lei, Rizzo e Stella? Ma sono dei grandi professionisti, degli ottimi professori, però è chiaro che hanno un po' affondato il dito nel burro oggi, e quindi è facile. Cioè hanno sfruttato il momento. Sono diventati milionari a spese vostre. Ma per carità, saranno messo proprio buon per loro, io non so. Beh, l'ha detto lei, milionari con libri su di noi. Vogliamo risentire l'intervento arrabbiatissimo, un pezzo di assenza? No, sì, arrabbiatissimo, io sono un passionale, forse ne Ma giusto, a noi piace tantissimo, milionari con i libri su di noi, sentiamo. Troviamo. I giornalisti che sono diventati milionari vendendo libri in cui pongono il dito su questo malcostume, spesso travisando i fatti o narrandoli solo parzialmente. Pungono il dito, vabbè, può scappare questa cosa, ha senso. Comunque, a chi si riferiva? Ma non solo loro, libri che ce ne sono sulla caccia, ce ne sono ormai. Poi ormai dice, la rovina d'Italia, sono i conduttori da milioni di euro. Vabbè, ma se è un'azienda normale e privata, uno può pagare Santoro e questo quanto vuole. Lei si riferiva a Giletti, lei è incazzato con Giletti, non riesco no, a capire. No, ma perché Giletti, perché Floris, gli altri conduttori prendono 11.000 euro al mese lordi. Vabbè, a Floris non è che fa la cosa alla casta, sì, ogni tanto. No, fa va, ci mancherebbe. Caro Assenza, caro Assenza, ciao, a presto, buona serata. Saluti, caro. Buonasera. Buonasera. Piero da Cosenza, Piero da Cosenza. Pronto? Sì, Piero. Ah, Cruciani, finalmente. È un sacco di tempo che aspetto di parlare con voi. Sì. Senta, io prima ascoltavo la trasmissione radiofonica con forbice. Però poi si è rotto i coglioni, dai, si è rotto i coglioni. Si è rotto i coglioni, esatto. E quindi un mio collega ha detto: vedi che c'è uno, si chiama Cruciani, fa una bella trasmissione. Infatti, da allora sono impazzito. Mia moglie mi chiama al tavolo, viene a mangiare. Io e lei non ce la fa, è dipendente. Niente, io stasera l'ho chiamato perché volevo. Una specie di drogato, è diventato drogato. Cioè, drogato dalla zanzara, sì. Insomma, vedo che in questi giorni ho sentito questo grande rumore dell'unione con i gay, matrimoni gay. Allora? Io sono d'accordo con l'avvocato Tormina, ma che razza di famiglia sarebbe un bambino che... Beh, l'avvocato è sempre l'avvocato, L'avvocato, è un grande. Professore è sempre il professore, non c'è niente da fare. Sì, è sempre il professore. Piero, l'abbraccio fortissimo. Danzano come zanzare queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città qui sulla strada. Beh, per l'ultima puntata dell'anno, caro David, ho una sorpresa per te. In via eccezionale, per gentile concessione di chi sappiamo, beh, abbiamo chi? Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Oh, di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Him. Elo. Him. Mai al mondo verrà la fine. Caro divino, come sta? Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Come sta? Noi come sta? Cazzo. Perfettamente, così speriamo di voi. Com'è in che... quanto sappiamo che siete in una crisi profonda. Ma no, che crisi profonda? Scusi, perché lei siamo in crisi, scusi, con quei capelli, quei vestiario? Scusi, Lino, perché dovremmo stare in crisi profonda? Perché, caro Parenzo, tu hai commesso il gravissimo errore qualche settimana fa di trascinarti teco. Sì. Quell'individuo che sta blaterando alle tue spalle. Sì, che caro Cruciani, questo tentativo televisivo che si chiamava Radio Belva, che si è trasformato in un disastro proprio perché c'era sera lui. Mancava lei, divino, guardi, mancava lei lì. Incerto, claudicante, incedere dell'omuncolo insipido, e certamente è stata con causa, oltre che sgarbi, va da sé, ma quello lo faceva. Sì. Quello il suo. Sì. Invece per quanto riguarda l'omuncolo, si tratta di un dato strutturale. Sì. Cioè, se invece fosse intervenuto lei, i programmi di quel tipo che richiedono ben altra esperienza. Ma che programmi di quel tipo? Era un carattere e ben altra capacità di improvvisazione e di adeguamento, inevitabilmente ci volerai per sua causa. per mia causa. Il disastro più totale. Vabbè, caro Divino, però non abbiamo esordito. L'anatema dell'uomo che per chi ci ascolta e ancora non lo conoscesse, andate a vedere chi è un signore. La credibilità, piacere, la credibilità questo di questo signore è quella di un uomo che va in giro con vestito con dei serpenti in testa, degli anelli obrobriosi. Questo è il signore che parla. Che non sa neppure camminare, noi l'abbiamo visto quando si metteva a ballare dietro di te, un po' sul piede destro, un po' sul sinistro, per tentare disperatamente di attirare l'attenzione su di lui. Sì. È un tentativo assolutamente improvvido, chi mai potrebbe calcolarlo in questo mondo? Nessuno, naturalmente. Allora, Divino, però non abbiamo iniziato bene, subito ci ha gettato un anatema, cioè noi secondo lei stiamo messi molto male, ma in realtà ce la caviamo, campiamo in maniera... No, noi abbiamo detto che siete messi molto male perché c'è un individuo che inevitabilmente porta giù la barca, che è tutto un altro discorso. Dunque... ma naturalmente se voi lo buttate giù dalla barca, se eliminate questa zavolla, la barca risalirà e procederà con l'animo lieto verso lidi sicuri. Scusi un attimo, caro Divino, volevo subito arrivare dunque al punto. Le faccio fare una piccola previsione così al volo. Al volo. Nel 2014 la Zanzara che fine farà? Chiuderà? Resterà aperta? Trasmigrerà verso altri lidi? Qual è la sua previsione? Noi oggi abbiamo rilasciato all'ANSA alcune importanti dichiarazioni sull'argomento dell'impeachment del governo Letta. Non l'ho letta. Dell'Italia. Sì. Non l'ho letta, Divino, scusi, io sono abbonato all'ANSA. Mai non l'hanno passata? No, però scusi, io parlavo della Zanzara, Divino. Non vediamo particolari problemi per la Zanzara, che galleggerà certamente, procederà. Sì. Certo che se la Zanzara vorrà attingere mete inebrianti, qualificanti, gioiose, dinamiche, propositive, espansive, e arrivare là, colà, in quel luogo segreto e possente dove si può e ciò che si vuole, deve buttare alle ortiche quanto ormai è improduttivo, cioè Parenzo, per intendere, intenda. Vabbè. Ecco, senti, noi comunque vi invitiamo tutti a Firenze al Pitti, c'entra? Il 7 gennaio noi saremo lì per inaugurarlo alle 15:30. Ecco, distruggi anche Pitti Uomo adesso e celebreremo un possente rituale magico collettivo. Possente rituale magico. Ma lo sanno quelli di Pitti Uomo? Non lo so se lo sanno. Ma lo sanno quelli di Pitti Uomo? Che appena ti vedono, si toccano, dicono: ma che qui è una sfilata di moda, mica il circo Barnum. Noi siamo là per promuovere l'evento. Per promuovere gli elefanti del circo. Il fama internazionale si è resa ben conto che noi possiamo... Non rovinare il made in Italy di Pitti Uomo. Non vada a rovinare l'unica eccellenza italiana che c'è rimasta. Vedrete già degli interessanti articoli, basta cliccare su Google Pitti Uomo Divino Telma, gli appare la prima schermata. Allora, caro Divino, noi vogliamo da lei una sola cosa, che lei ci dica se nel 2014 si voterà oppure no. Mi faccia questa previsione. Pare che lei ha preso la sesta laurea intanto, no? Sì, o sbaglio? Certo. No, la sesta la prendiamo a metà gennaio, al ritorno dal Pitti Uomo, in un giorno compreso fra il 14 e il 17, che ancora non è stato comunicato. La sesta laurea. Noi discuteremo nell'aula magna, siete tutti invitati, Della Università degli Studi di Genova, l'aula magna di Facoltà Lettere e Filosofia, discuteremo la nostra sesta tesi specialistica. In che cosa, scusi? Su Agostino di Ippona, gli angeli e i demoni. Ma tu ci credi, Davide, ci credi? Ma manco se lo vedo dipinto, manco se... invitati, venite. Sì. Veniamo, arriva, lo arrestano per abuso di titolo. Lui soprattutto potrebbe ricavarne qualche vantaggio per la sua povera mente che è così vuota. È quella che... mi dica se nel 2014 si vota o no, Divino. Sì, sta pensando. Ma per quello lo sciacquone, decide. A noi risulta. Ecco. Sì? Cosa risulta a noi? Sì. Cosa sta facendo? Tirando lo sciacquone per vedere dentro lì che cosa c'è rimasto? Cosa risulta a noi? Non risulta un cazzo, come evidente. Rendendoci conto che Renzi, sul quale si sprecano in questi giorni le richieste di analisi, Renzi sta effettivamente tentando di tutto e di più per far cadere il governo Letta. È arrivato lui. Sì, certo. E sta portando avanti una strategia che potrebbe, dal suo punto di vista, far cadere il governo Letta, però che lui non ha calcolato. Ecco qua, il genio della lampada. E noi pensiamo che lo capirà in zona Cesarini e che se il governo Letta cadrà, cosa che poi spiegheremo perché è possibile, se anche cadesse, non ne conseguirebbe a quel punto la vittoria dell'area di centro-sinistra, ma si otterrebbe un effetto di rimbalzo e in realtà a quel punto vincerebbe il centrodestra. Dunque, e la sua previsione è grave errore che Renzi sta conducendo. Grave errore, sì, sicuramente. Renzi, attenzione. Sì, grave errore, perché se lui pensa di vincere le elezioni politiche in Italia con quelle due o tre cose che adesso sta tirando fuori, cioè l'abolizione. Però scusi Divino, adesso io da lei voglio capire il vaticinio finale. Alla fine si vota o no? Si vota o no nel 2014? È che non si voterà nel 2014 perché noi l'abbiamo già escluso. Già nel 2013 abbiamo detto che nel 2014 non si sarebbe votato, quindi naturalmente non si voterà. Ribadiamo, ma per fortuna del PD, perché se si votasse sarebbe un disastro con questa impostazione programmatica sì, alla sconfitta. Su questo non c'è dubbio. Parenzo, il tuo giudizio. Ma il mio giudizio è che prima di venire qui ha raffazzonato, ha letto due robe in due siti, ha detto delle cose di una banalità sconcertante parlando con questa voce pomponesca e ramestando dentro il coso del bagno del gabinetto come fosse una maga Circe qualunque. Ma ti sembra normale? Noi riteniamo che Renzi voglia far cadere il governo Letta. Sono settimane che si sente questa cosa, Otelma! Basta con questo, arriva lui. Noi però riteniamo, da quello che abbiamo, dategli una carota, dategli un lupino, qualcosa. Arrivederci Divino. Arrivederci Divino, a presto. State bene, siate lieti, pensateci. Ma cosa pensiamo? Non si voterà secondo il Divino, abbiamo ottenuto questo. Cercasi stallone, privo di neurone. Beh, qui siamo al top, Per concludere questo anno in bellezza, Iulla Preti, buonasera. Buonasera. Come sta, cara forcona mia? Allora, innanzitutto non sono una forcona. Beh, come no, in parte sì. Ma assoluta, ma neanche una minima parte proprio. Beh, come no, è stata una delle passionarie della rivolta. Beh, non sarà forcona, ma uno dei movimenti collegati ai forconi, insomma, una cosa di questo tipo. È la rivolta del popolo, non dei forconi. Vabbè, ma forconi, popolo. Scusi, lei rappresenta, lei rappresenta il popolo? Certo, no, rappresenta, certo, sono una del popolo. Che tipo di popolo? Nel mio caso, nel mio piccolo, rappresento Reggio Emilia, la nostra città. Reggio Emilia? Sì. Ma si chiama Iulla proprio lei? Iulla, sì, Iulla Preti. Perché sai che c'è nel film Amici miei di Tognazzi, c'è proprio una canzone. Ma il vero nome qual è? Iulla, la Iulla, la Iulla, la Iulla, la la. Il vero nome qual è? Iulla. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Niente. Non lo so, tu come ti chiami? Giuseppe. Vabbè, Iulla, cosa Giuseppe. Cosa vuol dire Giuseppe? Ci sarà una piccola differenza tra Iulla e Giuseppe come nome, così, Gianelli. Sì, però se ti chiedo cosa vuol dire Giuseppe. Ma Giuseppe è un nome storico. È un nome storico, sì, è un nome che rappresenta la tradizione. Un nome biblico. Un nome biblico. Anche il mio è un nome che diventerà storico. Sì, perché? Perché lei farà la storia d'Italia? Certo, contribuirò a farla. I'm a cougar, per chi non lo sapesse. Che vuol dire? Lo spieghi lei al volgo. Cioè, io pensavo di essere stata chiamata per il movimento, la rivoluzione, introduciamo un po' il personaggio, sennò altrimenti uno non è che lei viene dai pianeti, dal pianeta Marte, no? Che vuol dire quando lei, per esempio, no, autrice di alcune hit strepitose, Me gusta il pelo, I'm a cougar? Beh, ma insomma, sono cose molto belle, sono cose straordinarie, sono cose che danno il senso della vita, il senso della creatività, dello slancio. Il senso della vita lo dà sicuramente, visto che lei conosce perfettamente le mie canzoni, quando io penso che lei faccia parte delle persone che non hanno neanche un neurone. Perché se mi chiamate per chiedermi una cosa, parlate del mio lavoro, canzoni, però, neuroni zero proprio. Ma è il suo lavoro, cara. Noi tendenzialmente non abbiamo neuroni, questo è vero, questo io lo devo riconoscere. Vedo che proprio lo stiamo dimostrando. Lo state dimostrando. Ampiamente. Però, siccome è lei che scrive Ama Cougar, scusi, lei fa di professione che fa oltre adesso a partecipare alla rivolta in prima linea, Reggio Emilia, il popolo? Io non devo parlare della mia professione, devo parlare di quello che sto facendo. No, ma noi, però, c'è la rivolta del popolo. Signora, vogliamo parlare di quello? La rivolta del popolo. Volete. volete? Certo, no, ma la rivolta del popolo ne possiamo parlare, però come lei sa che ci sono le persone che fanno le domande e le persone che rispondono. Non è che lei mi deve dire, io lei mi domandi di questo, io posso domandare quello che mi pare, poi lei mi può dire, io non voglio rispondere, oppure no, ma non le ho fatto una domanda criminale, non le ho detto lei impicca le persone, ho detto... Ma assolutamente, io sto dicendo che comunque mi avete contattato per chiedervi parlare. Ma certo, adesso cosa, ne parleremo, però... Se fosse, mi aveste contattato per un'altra cosa, quindi per il mio lavoro, sarei stata pronta a rispondere per il ma mio no, lavoro. Ma no, ma noi facciamo tutto, parliamo del suo lavoro, parliamo della rivolta del popolo, però uno deve presentare, deve introdurre una persona, no o no? Mi introduco io, sono una cittadina italiana che in questo momento sto rappresentando la rivolta del popolo a Reggio Emilia. Sì, no, però vede, signora Iulia, vogliamo essendo... parlare di questo. Però se uno fa non su Google, lei Condoleezza se uno Rice, sì. Quindi non avendo la notorietà ancora di Condoleezza Rice, di Hillary Clinton oppure della signora Iotti, noi inquadriamo il personaggio Iulia per quello che leggiamo dalle biografie, cioè Cuba, cioè la sexy guida dei forconi reggiani, come è stata identificata, non è che è una semplificazione giornalistica. Diremo anche che lei poi per carità poi la leader politica diventerà tutto quel che è possibile, che le auguriamo, ma poi mica si vergogna delle sue canzoni lei, no? Ma assolutamente è che forse non è chiaro il concetto, se parliamo di una cosa parliamo di una cosa e io sono interessata a parlare solo ed esclusivamente della rivolta popolare, della rivolta popolare. Ma lei come la fa la rivolta popolare come in tante altre città? Sì, ma che tipo di rivolta è? Cioè che rivolta, cioè andate in piazza, sì, parlate, ci sono abbiamo fatto un corteo Corteo. Mentre abbiamo richiesto un colloquio con il nostro sindaco per chiedere. Sì, per chiedere che? Un sacco di problematiche che ci sono a Reggio Emilia, per esempio. Città. Ah, vabbè, problematiche locali. Il succo, non vogliamo più persone che ci rappresentano, cioè le persone che ci rappresentano devono rappresentarci, non fare solo i loro interessi. Quindi sì, noi abbiamo questo iniziato diciamo. Facendo quello, sì. Quindi nella nostra città. Certo. Poi dopo abbiamo fatto i blocchi in autostrada, noi personalmente siamo andati a Roma al corteo di mercoledì. Al corteo di mercoledì? Sì, ma la richiesta qual è? A parte il fatto che le persone che ci devono rappresentare devono essere, come dire, devono essere degne, no? Non devono essere dei ladri, legittimate, al di là di questo. Scelte da noi. Governo via. Governo via. Richieste sono di tornare alla nostra moneta sovrana. Alla moneta sovrana. Ma ecco, ma uscire dall'Unione Europea. Ma la cosa, la questione, dopo questo governo che c'è? Un periodo di transizione? Sicuramente il dubbio, la domanda che ci fanno tutti è dopo è una domanda interessante. Dico, ci sono, quanti siamo? 59-60 milioni di abitanti in Italia, direi che qualcuno di competente. Sì, ma con che mezzo? Cioè, capito che dico? Cioè, ci vuole un periodo di transizione di una, che ne so, un governo di transizione. Fatto da chi? Sarà un periodo di transizione. Da chi? Con i militari? Con chi? Io non mi sento di dire questa cosa. No. E con chi allora? Che chi lo funziona? Che sono stati tipo il Belgio, sono stati 7 anni senza un governo. Ma non è vero, c'era un governo. Le decisioni ci sono lo stesso, cioè il paese va avanti lo stesso e anche meglio. Ma sì, ma è diversa la cosa. Comunque, sì, vabbè. Le decisioni sulla base di che cosa? Qualcuno si ha parlato di un momento di transizione. Sì. Però io vorrei tornare alla questione delle sue canzoni per un attimo, se lei consente. Sì. No, non la consento. Non mi consente questa non cosa. Non la consento. Qua. Che vuol dire, per capire il grande pubblico, lei è conosciuto per una canzone che si chiama I'm a Cougar. Che vuol dire? Lo vuole spiegare al pubblico che significa Cougar? Io al pubblico voglio spiegare quello che sto facendo. Lei non vuole spiegare cosa significa cougar? Non vuole spiegare cosa significa, per esempio, cercasi stallone privo di neurone? Che vuol dire cercasi stallone privo? Vuol dire che comunque, ripeto, voi siete la dimostrazione, questa canzone è una parodia, siete la dimostrazione. Ma no, ma va bene, ma dell'essere maschile del giorno d'oggi, che comunque stiamo parlando di una cosa seria e voi vi fermate a cosa? Cazzo ne frega del lavoro che faccio io? Ma come me ne frega? Me ne frega, ma lei vuole essere a capo della rivolta, non mi interessa il suo lavoro. Lei è a capo della rivolta a Reggio Emilia, non mi interessa il lavoro che fa. Basta, il mio lavoro, io canto e scrivo canzoni, punto. Benissimo, allora che vuol dire questa Ama Cougar? Vogliamo spiegare, siccome è la sua canzone principale, lo spieghi alla gente che sta ascoltando. Il capo della rivolta di Reggio Emilia scrive canzoni che hanno come titolo Ama Cougar, non c'è niente di male, non ma è criminale. Tutti i giornali, signora. No, ma guardate che non mi dovete mica convincere, io lo so benissimo che non è criminale, però non voglio parlare di questo. No, ma che vuol dire? Lo vuole spiegare che vuol dire I am a cougar? Chi è interessato a questo va su Google, non lo vuole spiegare. Cosa vuol dire cougar. E comunque dico che non è una canzone autobiografica perché ho 42 anni. Quindi dunque non cougar... è cougar, dunque non è diciamo una MILF. Sono solo prese per il culo. Prese per il culo, sì. Su determinate persone. Ma cercasi Stallone privo di neurone, è una cosa biografica? No. Ho appena detto che non è autobiografica. No, quella, perché questa fa parte di Emma Cougar. È il titolo di quella. È il... No. E l'altra com'era? Me gusta il pelo. Che vuol dire? Ah, io lo spagnolo non lo conosco. Il pelo, che vuol dire il pelo? Vuol dire capelli. Ah, mi gusta il capelli. Quindi è divertente perché c'è il... Perché buona rivolta, parola. Buona rivolta. Altrettanto. Mi raccomando, mi raccomando, non, senza troppa, senza scaldarsi troppo. Non c'è bisogno. Saluto. Grazie. Oh, Mario da, da Terni, su, per concludere, Mario. Sì, Mario da Terni, ascolta, io volevo chiedere all'amico Parenzo il percorso per diventare un attuale comunista come lui, il percorso formativo, i titoli, tutto il resto. Conoscevo gli intellettuali, quelli che vendevano l'unità la domenica. Sì, l'ho venduta per qualche anno. È uno l'ho fatto. È l'ultima rappresentazione dei cameragni, quei meccanismi anfoteri, capito? Quei meccanismi? Va bene. L'ho venduta sull'unità anfoteri, in passato. Se la deve piantare, Parenzo. Di che cosa? Senso unico di boicottare. L'abbraccio fortissimo! Ci sentiamo l'anno prossimo. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire.